il libro Breve storia delle eresie, scritto da Léon Chrestianet. Léon Chrestianet, che prese anche lo pseudonimo di Nicolas Corte, nato il 4 gennaio 1879 a Escurolet, Allier, e morto l'8 gennaio 1971 a Moulins, Allier, è un prelato, storico, teologo e accademico francese. È noto per il suo lavoro sulla storia del protestantesimo e sulla Chiesa nel XVI secolo. Le sue molteplici biografie, alcune riflessioni teologiche, affrontando in particolare il campo del satanismo e delle forze del male e la filosofia. Breve storia del cristianesimo. Capitolo primo. Le eresie dalle origini al IV secolo. Perché le eresie? In quella preghiera sublime che gli esegeti, la sua preghiera sacerdotale, Cristo ha chiesto al Padre, con una specie di angoscia, che i suoi discepoli conservino per sempre l'unità. Padre Santo, diceva, custodisci nel nome tuo quelli che mi hai affidato, acciocché siano una cosa sola come noi. Né soltanto per questi prego, ma prego anche per quelli che crederanno in me, per la loro parola, che siano tutti una sola cosa, come tu sei in me, o Padre, e io in te, che siano anch'essi una sola cosa in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Dal Vangelo di Giovanni 17, 11, 20-24. Ed egli conosceva quindi il valore e insieme la difficoltà dell'unità. Questa sarebbe stata la caratteristica principale della vera Chiesa, ma vi sarebbero state divisioni, rotture, divergenze di opinioni, in una parola, eresie. È infatti questo il significato di tale termine, derivato dal greco, passato nel latino e che, poco conosciuto nella lingua classica, doveva essere tanto spesso usato in quella dei padri della Chiesa. Donde provengono dunque le eresie? Dalla divisione degli animi, dai caratteri, dai temperamenti e in definitiva dal fatto della libertà umana. La fede nella parola di Dio è libera, Dio non forza nessuno, ma è inevitabile che la fede esiga da parte dell'uomo uno sforzo di sottomissione e di obbedienza. Questa obbedienza è una scelta e il compito dell'eresia è di mettere in rilievo tale scelta. Perciò San Paolo ha potuto dire: è necessario che ci siano anche delle eresie affinché tra voi si possa conoscere quelli di virtù provata. 1 Corinti 11-19. E Tertulliano, 150 anni più tardi, scrive: la condizione del nostro tempo ci costringe ad avvertire che non ci si deve stupire a proposito delle eresie, né della loro esistenza che è stata predetta, né del fatto che esse guastino la fede in parecchi, poiché hanno come ragion d'essere quella di provare la fede con il tentarla. Se si cerca di considerare questa legge della prova necessaria della fede, si consta che essa fa parte delle leggi essenziali che reggono gli spiriti. Gli angeli erano stati sottoposti ad una prova, di cui non conosciamo le modalità, ma di cui constatiamo il fatto dell'esistenza dei demoni. Erano angeli come gli altri. Soccombettero alla prova. Anche gli uomini, a loro volta, devono essere tentati, cioè provati. Si possono distinguere nel fatto delle eresie tre aspetti diversi: l'aspetto filosofico, l'aspetto paradossale e l'aspetto positivo. Dal punto di vista filosofico, l'eresia nasce dal conflitto o dal contrasto tra la verità rivelata e i vari sistemi filosofici già radicati nelle menti sulle quali cade tale rivelazione. La fede infatti non cade mai su menti perfettamente preparate a riceverlo. Cristo aveva scelto degli apostoli senza istruzione, ma quegli apostoli stessi avevano le loro idee, le loro tradizioni, le loro concezioni del regno messianico. Gli scribi e i farisei da parte loro si ritenevano molto più illuminati degli umili pescatori del lago di Galilea. In tutti la fede incontrava ostacoli, in tutti aveva pregiudizi da superare. E passando dai giudei ai pagani, i conflitti di carattere filosofico tra la fede e i sistemi in voga stanno ancora più aspri. Saranno ancora più aspri. E così sarà la fine dei tempi. Tra le filosofie umane e la verità rivelata non è stato sempre facile l'accordo. I pensatori cristiani dovranno sempre compiere un immenso lavoro di adattamento tra la religione e la fede. Da questo aspetto filosofico delle eresie si passa inevitabilmente al loro aspetto paradossale. Intendiamo dire, con ciò, che la verità rivelata, per il fatto stesso delle sue origini, della sua origine divina, non può far a meno di presentare alla ragione ombre che essa non riuscirà a penetrare. È quanto esprimiamo dicendo che la fede comporta dei misteri. Riflettendovi, si comprende come una religione senza misteri non possa essere una religione divina. Di fronte alla fede venuta da Dio, bisogna che la ragione confessi la propria impotenza. Ed è appunto questo che dà all'eresia il suo aspetto paradossale. Essa fa apparire la realtà antinomica e paradossale del mistero della fede. Infatti, nell'eresia va considerato ancora il suo aspetto positivo. Non tutto è falso, infatti, nell'eresia. Essa contiene sempre una intuizione giusta, ma che si trova falsa dall'interferenza di un sistema filosofico che è in contraddizione con la fede, o dal rifiuto esplicito o implicito del mistero della fede. In ogni eresia appare dunque una ribellione contro la verità rivelata, ed è qui che si manifesta il senso profondamente anticristiano di ogni eresia. Questo modo di intendere l'eresia è tradizionale nella Chiesa, ma si è sempre insistito anche sul bene che può derivare da quel gran male che essa è. Ciascuna eresia è stata l'occasione di un progresso nell'intelligenza della fede e di un rafforzamento dell'umanità in seno alla Chiesa. Eresia dei Giudaizzainti. La più antica eresia conosciuta nella storia della Chiesa fu quella dei Giudaizzainti. Fu l'errore ostinato di coloro che fin dal principio si opposero all'allargamento dei quadri della Chiesa perché vi potessero entrare in massa i pagani. Il dogma respinto da questi eretici era quello della cattolicità della Chiesa. Gesù aveva detto: andate, insegnate a tutte le genti. I giudaizzaiti esigevano il mantenimento della legge di Mosè e di tutte le sue prescrizioni. Dopo una sorda opposizione manifesta, soprattutto contro le sante audacia di San Paolo, l'apostolo dei gentili, i giudeo-cristiani, formarono delle sette separate, la principale delle quali si chiamò Chiesa dei Poveri, gli Abioniti, o Poveri Sì. Si è tentato talvolta di ricollegarli agli Esseni, che i manoscritti del Mar Morto ci hanno recentemente fatto meglio conoscere. Gli Ebioniti pare siano sopravvissuti fino al V secolo, e li si possono paragonare alla piccola chiesa degli inizi del XIX secolo. Lo gnosticismo, all'opposto degli ebioniti, che rimanevano troppo attaccati alle loro tradizioni giudaiche, gli gnostici furono in genere dei pagani che, accettando la fede cristiana, pretendevano mischiarvi le loro concezioni personali, le loro teorie filosofiche, le loro chimere precedenti. Il termine gnosi deriva dal greco e significa conoscenza, uscienza. Gli gnostici si consideravano pensatori originali che non potevano piegarsi alla fede dei semplici fedeli. E vi fu nei primi secoli della Chiesa un vero pullulare di eresie di ispirazione gnostica. Sebbene del tutto inutile riferire qui in particolare le fantasticherie di queste antiche sette, limitiamoci quindi ad offrirne un'idea generale. Due problemi sembrano aver attirato l'attenzione degli gnostici: il problema della creazione e il problema del male. Due problemi del resto strettamente collegati, poiché se Dio ha creato il mondo, donde proviene il male? E se non ha creato il male, come lo si può considerare unico creatore delle cose? Su questo tema gli gnostici costruirono sistemi quanto mai fantastici. A prestar loro fede si deve distinguere, accanto al regno della luce, che è quello di Dio, il regno delle tenebre, che è quello della materia eterna. Tra il Dio abisso, come amavano dire, e l'organizzatore della materia chiamato Demiurgo, vi dovrebbero essere un gran numero di gradini e esseri intermedi, che chiamavano eoni, e la maggior parte delle sette accoppiavano un eone maschile e un eone femminile. Il Demiurgo, o autore del nostro mondo materiale, era l'ultimo degli eoni, il più lontano dal dio abisso, o un demone che aveva rapito una scintilla della pienezza divina, il pleroma, onde animarne la materia. Per gli gnostici, questa origine del mondo spiega la diversità degli spiriti umani. Essi distinguono infatti gli gnostici o spirituali, cioè loro stessi, le persone istruite e nelle quali la materia è dominata dallo Spirito di Dio, i cristiani ordinari, nei quali materia e spirito sono presso a poco equilibrati, e i pagani o materiali, ilici, nei quali la materia domina decisamente lo spirito. Applicando il loro sistema della fede cristiana, usavano fare di Cristo un eone inviato da Dio. Questo eone si impadronì dell'uomo Gesù al momento del suo battesimo nel Giordano. Da quel momento ebbe la missione di guidare gli uomini alla vera gnosi, che è il puro Vangelo, onde distaccarli dalla materia. È così che si operò, grazie a lui, la redenzione. Quando il Vangelo avrà compiuto la sua opera sulla terra, tutte le particelle dello Spirito Divino, che sono prigioniere nella materia, rientreranno nella pienezza di Dio. Il pleroma divino, e il regno delle tenebre resterà per sempre nelle tenebre. In ciò che abbiamo esposto, vi è un certo numero di idee che sono riapparse ai giorni nostri, sia nei teosofi sia negli spiritisti. Fu necessario alla Chiesa primitiva una miracolosa assistenza da parte dello Spirito Santo perché non fosse sommersa fin dal principio in queste speculazioni fantastiche e pretenziose. Lo gnosticismo le rese un servizio provvidenziale, costringendo i fedeli a stringersi attorno ai loro pastori, e specialmente attorno al Vescovo, rappresentante di Cristo e successore degli Apostoli, in ciascuna chiesa particolare. Principali capi gnostici. È usanza comune far risalire lo gnosticismo a quel Simon Mago, di cui si parla nel Libro degli Atti, e che voleva acquistare dagli Apostoli il potere di far discendere lo Spirito Santo sui fedeli, come aveva visto fare da loro. Dopo di lui si fa il nome di un certo Cerinto, che fu combattuto dagli Apostoli e specialmente da San Giovanni Evangelista. ma sono figure di cui conosciamo ben poco con certezza. In seguito si svilupperanno due correnti gnostiche, una in Siria, più positiva e pratica, l'altra ad Alessandria d'Egitto, più speculativa e fantastica. La prima conta solo pochi nomi conosciuti, la seconda invece alcuni capi di talento, i quali sono stati confutati dai padri. Ciò che ci è valso a conoscere, i loro sistemi. Ricordiamo qui soltanto Valentino, Carpocrate e Marcione. Valentino, di origine egiziana, sembra abbia predicato le sue idee a Roma fra il 135 e il 160 d.C. Fu più volte scomunicato e cacciato dalla Chiesa. Finì per ritirarsi a Cipro e vi creò una setta abbastanza fiorente. Con Carpocrate è il programma morale che sembra prendere il primo posto. Fra gli gnostici, infatti, alcuni consideravano la materia come la sede di ogni male e di conseguenza pretendevano di proibire il matrimonio come cosa impura. Furono chiamati eucratiti o continenti. Al contrario, Carpocrate e i suoi discepoli assicuravano che quanto avviene nella materia è insignificante dal punto di vista dell'anima, preludendo al quietismo da cui non sarà esente Lutero, ma che vedremo affermarsi con Molinos nel XVII secolo. Egli riteneva come indifferenti tutti i disordini della sensorialità, mentre un figlio Epifanio, che morì giovane e consumato dai vizi, lo fece onorare come un dio nella sua setta. Carpocrate ed Epifanio, contemporanei di Valentino, sono anche un poco gli antenati del comunismo. Marcione occupava un posto a parte nella schiera degli gnostici. Originario di Sinope, nel Ponto, venne a Roma verso il 135-140 e si fece ricevere nella chiesa. 10 anni più tardi se ne staccava rumorosamente e fondava una setta perniciosa, che riuscì a tenersi a lungo in vita. La sua dottrina essenziale era ciò che egli chiamava l'antitesi. Egli opponeva infatti, un po' come più tardi Lutero, l'Antico Testamento, opera di Dio giusto, al Nuovo Testamento, opera del Dio buono. Parimenti Lutero inciterà in opposizione fra loro la legge e il Vangelo, la legge che condanna e il Vangelo che salva. Gli Ofiti. Tra le sette gnostiche ve ne furono alcune che resero un culto al serpente del paradiso terrestre. Così come ai giorni nostri ve ne sono alcune che rendono un culto a Satana, principe di questo mondo. Gli adepti di tale setta sono conosciuti sotto il nome di Ofiti, o aderenti o adoratori del serpente. Essi giustificano così il culto di Satana, secondo la scrittura. Il serpente fu il primo a ribellarsi contro il demiurgo, che aveva creato il mondo di miseria in cui ci troviamo, e a proporre agli esseri umani la scienza del bene e del male. È interessante notare come in sette di questo genere siano stati maggiormente in onore i libri apocrifi, i quali non sono altro che caricature dei libri sacri che formano la nostra Bibbia. Il montanismo. Questo pullulare di eresie diverse e che non possiamo enumerare completamente, testimonia il grande interesse che il messaggio cristiano sollevava nel mondo greco-romano del II secolo. Il montanismo è un'altra prova di tale interesse. Montano era nato in un villaggio asiatico ai confini della Misia e della Frigia. Era rimasto colpito dai passi del Vangelo di San Giovanni, in cui si parla dell'invio dello Spirito Santo da parte di Gesù. E la sua mente si era esaltata al punto che egli si presentava come l'organo stesso dello Spirito Santo promesso da Cristo. Un'era nuova e una nuova rivelazione dovevano, diceva, cominciare con lui. Parlava con una sicumera da demente. «Sono venuto», diceva, «non come un angelo o un messaggero, ma come lo stesso Dio Padre. Io sono il Padre, il Figlio e il Paracleto. Ecco, l'uomo è come una lira e Dio vi scorro sopra come un archetto. L'uomo dorme e Dio veglio. Ecco, è il Signore che immerge i cuori degli uomini nell'estasi e che dà un cuore agli uomini». Egli stesso sembrava trovarsi sempre in una specie di estasi. Ben presto due donne, Prisca e Massimilla, furono conquistate dalla sua dottrina ed ebbero al pari di lui delle estasi, durante le quali profetizzavano. I vescovi dei dintorni cercarono di riportarle al buon senso per mezzo degli esorcismi canonici. Fatica inutile. La setta allora fu scomunicata perché tendeva a sostituire all'autorità della gerarchia cristiana l'ispirazione diretta. I montanisti professavano in particolare il millenarismo, errore secondo il quale il Cristo trionfante avrebbe stabilito sulla terra per mille anni il regno predetto nell'Apocalisse. La setta, in previsione di questo avvento, predicava un grande rigorismo morale che sedusse perfino un Tertulliano, il solo grande nome di cui abbia potuto gloriarsi il montanismo, benché la setta abbia resistito fino all'VIII secolo, soprattutto in Oriente. Eresia antitrinitaria. Uno dei dogmi più sublimi della religione cristiana è quella della Santissima Trinità, un solo Dio in tre persone. Era inevitabile che desse luogo a molte speculazioni e di conseguenza a più di un errore. Gli apologisti del secondo secolo sostenevano energicamente i due termini della dottrina, unità di essenza, trinità delle persone divine. Proprio nel corso di queste esposizioni era apparso verso l'anno 180 d.C. il termine triade o trinità nello scrittore cattolico Teofilo di Antiochia. Ma verso la stessa epoca aveva origine una gravissima eresia, l'adozianismo. Essa consistevano nello spingere l'attributo di figlio di Dio dato a Cristo con il fatto della sua adorazione da parte di Dio. Vi era qui una duplice eresia. Si rigettava la Trinità, si negava la divinità di Cristo e l'incarnazione del Verbo. Il promotore dell'adozianismo fu un ricco conciatore di Bizanzio di nome Teodoto, che fu condannato da Papa Vittore I verso il 190. Un secondo, Teodoto, che faceva il banchiere, e un certo Artemone furono i più illustri seguaci di questa eresia. Ma un errore più grave, più sottile, più pericoloso si propagava nella stessa epoca. Ne fu iniziatore, a quanto sembra, un certo Nocto, la cui opera fu tuttavia oscurata da quella di Prassea. Il più insigne teologo di questa tendenza fu comunque, dopo il 210, Sabellio, cosicché questa eresia viene spesso chiamata sabellianismo e anche monarchianismo. Questo secondo nome deriva dal fatto che i sabelliani proclamavano ad alta voce: «Noi non ammettiamo che la monarchia, cioè l'unità di persona, come pure l'unità di natura di Dio». Ma allora, che significava dunque i nomi di Padre, Figlio e Spirito Santo usati fin dal principio nella Chiesa e in particolare nella liturgia del battesimo? Per i sabelliani i tre nomi non erano altro che tre aspetti, tre attributi diversi, ma niente affatto persone distinte. È quindi il Padre che si è incarnato nel seno della Vergine e che, alla sua nascita, ha preso il nome di Figlio, senza cessare di essere il Padre. È il Padre, sotto il nome di Figlio, che ha predicato, ha sofferto ed è risuscitato. I cristiani ortodossi diedero per questo motivo ai sabelliani il soprannome di Patri Passiani, quelli che credono che il Padre abbia sofferto sulla croce per noi. Furono anche soprannominati modalisti, perché le tre persone della Trinità sono da essi ridotte a semplici modi di espressione. In genere, i sabelliani rigettavano l'adozianismo. Tuttavia, un vescovo del III secolo, Paolo di Samosata, trovò il modo di professare simultaneamente queste due eresie e fu condannato nel concilio di Antiochia verso il 268. Principali confutazioni. Tutte le eresie che abbiamo indicato furono oggetto di vigorose confutazioni da parte dei migliori scrittori della Chiesa, mentre gli apologisti si rivolgevano soprattutto ai pagani. I padri antignostici o antisabelliani descrivevano e rigettavano energicamente gli errori che minacciavano di sommergere la Chiesa. Limitiamoci a nominare Sant'Ireneo, secondo vescovo di Lione, Tertulliano, Origene, Sant'Epifanio, Sant'Ippolito. Non si potrà mai esagerare l'importanza e la fecondità per la Chiesa di queste controversie spesso ardenti. Per una religione qualunque cosa è più vantaggiosa dell'immobilismo e dell'inerzia. Le dispute sollevate da un Valentino, un Marcione, un Prassea, un Sabellio e altri eretici determinarono un approfondimento e un consolidamento della dottrina cristiana. Questa dovette continuamente muoversi e progredire fra errori opposti, tanto dal punto di vista dogmatico che sul terreno morale. Non cadde né nell'encratismo né nel lassismo quietista, e il dogma trinitario, così profondo e così misterioso, fu sostenuto e confermato con una forza decisiva. Senza dubbio accadde che per meglio confondere i patripassiani si giungesse a distinguere il Figlio del Padre al punto da dichiararlo inferiore al Padre e subordinato al Padre. Lo stesso grande Origene cadde un poco in questo errore, che è noto sotto il nome di subordinazionismo e che avrebbe dato origine nel secondo seguente all'arianesimo, nel secolo seguente all'arianesimo. Ma fu appunto nel corso di queste ricerche teologiche che si formò una lingua nuova, la quale avrebbe permesso più tardi di confutare errori pericolosi. Soprattutto Tertulliano è considerato come il creatore di tale lingua in Occidente. Fu lui a trovare la formula fondamentale, tre persone in una sola sostanza. Si vedrà nel capitolo seguente l'uso che la Chiesa fece di questa preziosa formula, che il suo stesso autore non aveva sempre ben compreso e applicato. Tre persone in una sola sostanza. Capitolo 2. Eresie del IV secolo. Arrio e la sua dottrina. Le controversie provocate nel III secolo dagli errori antitrinitari avevano portato ad una recisa condanna dei Patri Passiani, ma gli scrittori cattolici non avevano sempre saputo evitare il subordinazionismo. I papi, senza dubbio, non avevano mai accettato questa dottrina così poco logica. Paolo di Samosata era stato condannato dal Concilio di Antiochia verso il 268 per aver fatto di Cristo un semplice figlio adottivo di Dio. Sembra che il prete Luciano di Antiochia abbia tuttavia considerato qualcosa di questa dottrina sotto la forma seguente. In Gesù l'anima che vivifica il corpo dell'uomo era sostituita dal Verbo, che si può chiamare Dio, poiché è il primogenito di Dio, ma che è inferiore a Dio, poiché è stato creato e da lui tratto dal nulla. È probabilmente questo Luciano di Antiochia che si deve considerare come il vero padre dell'arianesimo. Ario era nato in Egitto verso il 256. Era prete e aveva ricevuto l'incarico di reggere una importante chiesa della metropoli di Alessandria, una delle più splendide dell'impero romano. Era un uomo astuto, distinto, alto e magro, eloquente e abile, molto popolare nella sua parrocchia, quella di Baucalis. Era però ambizioso, pieno di sé e molto ostinato nelle proprie idee. Verso il 318 si era verificato un conflitto dottrinale tra lui e il suo vescovo, Alessandro. Quest'ultimo, dopo aver tentato invano metodi di persuasione e di dolcezza, riunì verso il 320-321 lui concilio, che contò un centinaio di vescovi dell'Egitto e della Libia. Ario vi fu condannato e dovette lasciare la parrocchia, ma si rifugiò in Palestina e quindi in Asia, dove si procurò dei seguaci. Aveva composto una raccolta di canti popolari intitolata Thalia per propagare le sue idee. Ad Alessandria aveva conservato amici devoti. Si contavano i suoi cantici contro i cattolici. Questi rispondevano energicamente e i pagani si divertivano a quelle dispute incresciose. Proprio in quel tempo l'imperatore Costantino aveva sconfitto il suo rivale Licinio e ricostruito sotto la sua autorità l'unità dell'impero romano. Le dispute che avevano luogo ad Alessandria, a Nicodemia, in Palestina e in Siria erano troppo scottanti per non attrarre la sua attenzione. Dietro il consiglio del vescovo Osio di Cordova decise di riunire un concilio generale perché si pronunciasse definitivamente sulla dottrina di Ario. Questa dottrina era la seguente: Dio è uno e eterno. Il Verbo o Logos è la sua prima creatura ed è stato lui tratto dal nulla. Egli se ne è servito per creare il nostro mondo. Il Verbo è quindi superiore e anteriore a tutte le altre creature, ma non lo si può chiamare Dio, se non in quanto creatore del mondo. In realtà non è che un figlio adottivo di Dio. Lo Spirito Santo, a sua volta, è la prima creatura del Figlio, e perciò stesso è a lui inferiore. Fu il Verbo che venne ad animare il corpo di Gesù, nato nella Vergine Maria. Per questo si legge in San Giovanni, il Verbo si è fatto carne, e non già si è fatto uomo. Il Verbo sostituisce in Gesù l'anima umana e ne tiene il posto. Il concilio di Nicea, riunito nel 325 ad opera dell'imperatore Costantino, adottò sotto l'influsso del diacono Atanasio il più insigne teologo del vescovo di Alessandria, dove era sorta l'eresia di Ario. Il termine co-sostanziazione, per affermare categoricamente la perfetta uguaglianza del Verbo del Padre. Due soli vescovi rifiutarono di sottoscrivere il simbolo di fede votato nel concilio e che noi chiamiamo simbolo di Nicea. Tutti i seguaci di Ario furono deposti e deportati. l'arianesimo sotto Costantino. Ma Costantino non seppe mantenere con fermezza la dottrina definita Nicea. La sorella Costanza, più o meno guadagnata all'arianesimo, lo spinse a richiamare all'esilio il vescovo Eusebio di Nicodemia, che acquistò la sua piena fiducia. Eusebio riuscì a fargli credere che il termine consostanziazione aveva un sapore di sabellismo e cancellava ogni distinzione reale tra il padre e il figlio. Grazie a questi equivoci, Ario fu richiamato dall'esilio verso il 329-330. Dopo aver messo una aver emesso una confessione di fede del tutto insufficiente. L'arianesimo puro trovò il modo di rivestirsi di forme mitigate e la polemica si trascinerà ancora a lungo, di simbolo in simbolo, senza giungere a una soluzione precisa. Un nome tuttavia incarnava l'ortodossia, quello di Atanasio, che nel 328 era succeduto al proprio vescovo in Alessandria. Fu dunque contro Atanasio che gli amici di Ario e di Eusebio di Nicodemia concentrarono i loro sforzi. Si cercò di perderlo, avendo Ario sottoscritto una formula imperfetta, ma che si volle ritenere come ortodossa. L'imperatore invitò ad Alessandria intimò ad Alessandro di riabilitare e di restituirgli la parrocchia. In seguito al suo rifiuto, Atanasio fu tradotto davanti a un concilio a Tiro e, a forza di intrighi, vi fu fatto condannare nel 335. L'anno seguente Costantino lo esiliava a Trevi, nell'estremità delle Gallie. Nel frattempo giunge l'età di 80 anni. Giunto all'età di 80 anni, Ario moriva, si dice, in mezzo al trionfo che gli amici gli preparavano a Costantinopoli per festeggiare la sua riammissione nella comunione cattolica. Il Fotinianismo. Ad accrescere la confusione delle idee venne verso il 335 la pubblicazione di un libro contro l'arianesimo dovuto al vescovo Marcello d'Ancira. Nel suo zelo contro l'eresia, egli parve ricadere nell'errore di Sabellio, non distinguendo nettamente le tre persone della Trinità. Gli eusebiani, che godevano di grande favore presso Costantino, colsero l'occasione e fecero condannare Marcello. Quest'ultimo protestò e si appellò al Papa Giulio I, il quale, una prima volta nel 338 e una seconda volta nel 341, lo dichiarò ortodosso. Più tardi, tuttavia, si dovette riconoscere che il linguaggio di Marcello d'Ancira non era del tutto soddisfacente, e siccome le sue idee erano state riprese da Fotino, vescovo di Sirmio, si diede il nome di Fotinianismo a questa eresia che rinnovava in parte il modalismo di Sabellio, ma tutto ciò aveva contribuito un poco a turbare gli spiriti delle file dell'ortodossia. Il semi-arianesimo. Si era fatto tuttavia qualche progresso verso la verità. L'arianesimo era costretto a modificare le sue formule per farle accettare. L'ortodossia, sempre validamente difesa da Atanasio e appoggiata da Roma, guadagnava terreno. Ma essendo morto Costantino nel 337, l'impero fu diviso tra i suoi tre figli, uno dei quali infine ereditò dagli altri due. Quest'ultimo, di nome Costanzo, si piccava di teologia, come già il padre. Si lasciò adescare da Eusebio di Nicodemia, che può essere considerato come il grande capo del semi-arianesimo, mentre il Papa Giulio I prendeva energicamente le difese di Atanasio. Prima ha richiamato dall'esilio e quindi scacciato nuovamente dalla propria sede Eusebio, in un concilio riunito ad Antiochia nel 341, finse di condannare in Marcello d'Ancira il rinnovato sabellismo, facendo adottare una formula semi-ariana. A quell'epoca Costanzo non era ancora unico imperatore. Il fratello Costante regnava in Occidente. D'accordo con il Papa Giulio I, Costante riunì un concilio a Sardica, l'odierna Sofia, in Bulgaria. Era presente Atanasio e presiedeva, in nome del Papa, il vecchio Osio di Cordova. A dispetto della opposizione degli eusebiani, che si ritirarono quasi subito, vi fu riabilitato Atanasio e acclamata l'ortodossia. Atanasio poté rientrare nuovamente ad Alessandria nel 346. L'anno precedente si era finito in Occidente con lo sfatare le dottrine oscure e perniciose di Fotino di Sirmio e di conseguenza quelle ancora più subdole del suo maestro Marcello d'Ancira. Queste dottrine erano state nettamente condannate nel Concilio di Milano del 345 e tale decisione aveva contribuito a rischiarare l'atmosfera. Grazie all'energico imperatore Costante si poteva sperare la pace nella Chiesa, ma egli morì assassinato nel 350 e da quel momento Costanzo rimase unico padrone dell'impero. Eusebio di Nicodemia era morto, ma due vescovi, le cui dottrine erano state condannate nel concilio di Sardica del 343, riuscirono ad entrare nelle sue buone grazie. Basilio d'Ancira e Acacio di Cesarea, sotto l'influsso di Basilio d'Ancira, che era semiariano, come lo era stato Eusebio di Nicodemia, fu riunita tutta una serie di concili con il pretesto di porre fine all'eresia di Fotino di Sirmio, il sabellianismo. Ma si mirava a dire che la dottrina di Atanasio, la quale sosteneva che il Verbo è consostanziale al Padre, non era altro che un fotinianismo camuffato. E siccome la dottrina e la formula di Atanasio erano sostenute soprattutto in Occidente, l'imperatore, dietro la spinta dei suoi consiglieri semiariani, moltiplicò in Italia e in Gallia i concili destinati a distruggere quella pretesa d'eresia, l'eresia dei Niceni, cioè dei sostenitori del concilio di Nicea del 325. Tali furono i concili di Milano nel 355, quello di Arles nel 353, quello di Bezers nel 356, eccetera. Dappertutto ci si limitava a costringere i vescovi a scegliere tra la condanna di Atanasio e l'esilio. Il Papa Liberio, successore di Giulio I, nel 352 si lasciò adescare. Non avendo voluto abbandonare la causa di Atanasio, fu dapprima esiliato a Roma e a Berea, fine del 355, e sostituito da un antipapa di nome Felice, 355-365. Finì per sottoscrivere una formula equivoca, di cui parleremo tra breve. Tra i più illustri esiliati di questo periodo così burrascoso si devono segnalare, insieme con il Papa Liberio e lo stesso Atanasio, due santi molto venerati in Occidente, Sant'Eusebio di Vercelli e Sant'Ilario di Poitiers. E persino il venerando Osio di Cordova, nato nel 258 e vescovo dal 295, aveva quasi 100 anni. Varie forme di semi-arianesimo. Ma che cosa si metteva al posto della dottrina definita anicea, con cui si sostituiva il consostanziale di Atanasio? Ciò che caratterizzava l'eresia sono le sue incessanti variazioni e fluttuazioni, perché, come ha giustamente rilevato Newman, appena si esce dall'ortodossia si cade nell'inconsistenza. Tale osservazione si adatta egregiamente ai casi di quell'epoca. I semi-ariani non cessavano di costruire formula, non volevano saperne di sostanziazione con il pretesto che vi sentivano odore di sabellinismo. perciò cercavano un altro aggettivo. I semi-ariani, propriamente detti, con Basilio d'Ancira, si attendevano al termine simile nella sostanza homo iusios in greco, invece di homoousios, che era il termine di Atanasio. Furono quindi chiamati homoousiani. All'estremità della scala delle opinioni si trovavano gli ariani puri, i quali sostenevano che Verbo era dissimile a nomoius dal padre. Sostenevano che il Verbo era dissimile dal padre. Questi sono conosciuti sotto il nome di anomei. Infine, tra i due opposti, si ergeva l'opinione di Acacio di Cesarea, secondo il quale si doveva dire semplicemente che il Verbo è simile, omoio, al padre, senza precisare che gli è simile nella sostanza. I sostenitori di questa teoria furono perciò detti omei. Le differenze che si notano in quelle che sono chiamate le quattro formule di Sirmio, varate dal 351 al 359, mostrano chiaramente le divergenze che travagliavano allora gli animi della Chiesa. Sirmio, che viene identificata con l'attuale Mitrovica sulla Sava in Jugoslavia, era la residenza abituale di Costanzo, e appunto alla presenza di quest'ultimo si elaborarono in quella città le più mutevoli formule di fede. La prima formula di Sirmio, redatta sotto l'influsso di Basilio di Acira, è semi-ariana, ma potrebbe interpretarsi in maniera ortodossa. La seconda segna l'influsso passeggero degli anomei e il declino dell'influsso di Basilio di Acira. È dell'anno 357 e posteriore di 6 anni alla precedente. Proclama il figlio inferiore al padre e lo Spirito Santo inferiore al figlio, mediante le più odiose e colpevoli violenze. Non si ebbe vergogna di far sottoscrivere questa formula al vecchio Osio di Cordova, completamente ingannato. Ma non gli si poté mai strappare una condanna dell'amico Atanasio. Aveva allora 99 anni. A partire dal 358 Basilio aveva preso l'offensiva ed era riuscito a far ammettere dall'imperatore una terza formula, nella quale senza dubbio non si riscontrava il termine ortodosso con sostanziazione descritto a Nicea, ma che si poteva tuttavia intendere in modo cattolico. Bisogna riconoscere che certi scrittori, anche perfettamente ortodossi, come San Cirillo di Gerusalemme, temevano un poco l'espressione consostanziale, quasi potesse portare al sabellinismo. Non è quindi da stupire che il Papa Liberio, il quale languiva da 3 anni a Berea, e vedeva la sua chiesa di Roma dilaniata dallo scisma a causa di un antipapa, abbia creduto di poter sottoscrivere quella formula, onde ritrovare la libertà. Cosa più spiacevole, egli consentì di condannare Atanasio per l'uso del termine consostanziale. Non è tuttavia da credere che il Papa sia in questa circostanza caduto egli stesso nell'eresia, bensì durante le discussioni sull'inaffidabilità del Papa si sia fatto continuamente ricorso al suo caso. Liberio mancò di chiaroveggenza e di fermezza, ma la sua ortodossia sembra rimanere completamente fuori causa. Il trionfo di Basilio d'Ancira, autore di questa terza formula di Sirmio, non fu d'altronde di lunga durata, poiché i suoi nemici e rivali strapparono al debole e pretenzioso imperatore una quarta formula di Sirmio, che dichiarava il Verbo semplicemente simile al padre, il che significava la vittoria degli omei sugli omeusiani. Eravamo nel 359. La formula fu sottoscritta per prudenza dagli onomei e dallo stesso Basilio di Ancira, che la adottò alla sua opinione personale. Ma allora si produsse nella Chiesa un vero dramma. L'imperatore ebbe la pretesa di far sottoscrivere questa formula da tutti i vescovi dell'impero e a tal fine convocò due concili, uno Selcuccia per l'Oriente e l'altro a Rimini per l'Occidente. A Rimini si radunarono 400 vescovi, di cui 80 erano ostili alla definizione di Nicea. La maggioranza quindi dichiarò di attenersi al concilio di Nicea e respinse la formula di Sirmio. Ma la minoranza agì con tanta astuzia e fece intervenire l'imperatore con tanta rigidità che diede le più gravi minacce e con spiegazioni miranti ad addormentare le coscienze. Si ritenne dai padri la sottoscrizione di questa formula di Sirmio, per di più aggravandola, poiché mentre prima il Verbo vi era detto simile al Padre in ogni cosa, a Rimini queste ultime tre parole furono soppresse, rimase simile al Padre. Comunque sia, è certo che la formula di Rimini fu infine adottata nel più assoluto equivoco. Lo stesso avvenne a Seleucia. Basilio d'Ancira si dibatté dapprima come meglio poté. Poi l'autorità dell'imperatore fece pendere la bilancia nel senso inverso. Così la formula detta omeiana, sottoscritta a Rimini, venne imposta anche a Seleucia. Di qui passò ai popoli barbari che nel secolo seguente avrebbero invaso l'impero romano. Quando si afferma in storia che questi popoli, o almeno una parte di essi, per esempio Burgundi e i Goti, erano ariani, si vuole intendere che professavano la confessione di fede di Rimini Seleucia. L'anno seguente, nel 360, gli Acaciani e Omei riportarono un'ultima vittoria al concilio di Costantinopoli, che condannò insieme i termini consustanziale, ortodosso, simile in sostanza, Basilio d'Anciria, semiariano, e dissimile, ariani puri. Sembrava che l'eresia avesse vinto nella Chiesa. San Girolamo, parlando di questo breve periodo che terminò con la morte dell'imperatore avvenuta nel 361, disse con una frase rimasta celebre: l'universo gemette nello sbalordimento di vedersi diventato ariano. Non era nulla di grave. Gli spiriti ingannati dagli intrighi e vessati dalle minacce della corte si risollevarono ben presto. Alla morte di Costanzo fu uno dei suoi nipoti, Giuliano, che in storia è soprannominato l'apostata, a prendere il potere. Egli aveva segretamente abbracciato il paganesimo ed era venuto in urto con lo zio, l'imperatore, in seguito alla rivolta dell'esercito che proclamava Augusto lui stesso. Costanzo era morto mentre marciava contro di lui. Una volta padrone dell'impero, Giuliano cercò di ristabilire il paganesimo. Il suo primo atto fu quello di rimandare alle proprie diocesi tutti i vescovi esiliati, senza dubbio con l'idea di provocare in tal modo delle divisioni in seno alla Chiesa. Non starò a descrivere qui tutti i tentativi da lui fatti per risuscitare il paganesimo ormai sorpassato e sepolto. Del resto, non ebbe il tempo di impegnarvisi a lungo, poiché già nel 363 scompariva all'età di 32 anni durante una spedizione contro i persiani. I suoi successori, Gioviniano, Valentiniano e Graziano, e soprattutto Teodosio, o usarono una larga tolleranza, rimanendo fuori dalle dispute teologiche, o si mostrarono decisamente favorevoli all'ortodossia cattolica. Uno solo, Valente, fratello di Valentiniano I e da lui associato all'impero, si fece al pari di Costanzo difensore dell'arianesimo, senza portare d'altronde gravi disordini in seno alla Chiesa d'Oriente, in cui risplendevano allora autentici geni come Basilio di Cesarea e il suo grande amico Gregorio Nazianzeno. Atanasio ebbe l'onore di contribuire, prima della sua morte, alla riconciliazione e alla pacificazione degli animi. Contribuire prima della sua morte alla riconciliazione e alla pacificazione degli animi. Rientrato al pari degli altri nel 362 nella sua chiesa di Alessandria, radunò un concilio e in essa dette prova di una grande larghezza d'animo per porre fine a tutte le dispute dogmatiche. Fece semplicemente rivivere i decreti del concilio di Nicea del 325, rifuggendo da qualunque discussione di termini. Quando morì nel proprio letto, lui era stato così spesso cacciato dalla sua sede, aveva adempiuto uno dei più nobili compiti che possono incombere a un pastore di anime, poiché aveva ristabilito dovunque intorno a sé la pace nell'unità della fede. Era il 2 maggio del 373. Fra coloro che seguirono il suo esempio è da segnalare Sant'Ilario di Poitiers, nelle Gallie, Sant'Eusebio di Vercelli in Italia e i cosiddetti tre Cappadoci, Basilio di Cesarea, già ricordato, Gregorio Nazianzeno e Gregorio Nisseno, fratello di Basilio, forse il più profondo dei tre. Gli pneumatomachi. Per quasi tutto il IV secolo, uno dei più splendenti della storia della Chiesa, si discusse animatamente sulla divinità del Verbo, ma si perdette un poco di vista quello dello Spirito Santo, la divinità dello Spirito Santo. È chiaro tuttavia che coloro i quali rigettavano la divinità consostanziale del Figlio respingevano a maggior ragione quella dello Spirito Santo, ma tutti ritenuta al terzo posto tra le persone divine. Solo verso il 360 si pose chiaramente la questione su questo punto. La persona dello Spirito Santo era infatti sempre associata alle altre due, particolarmente nella liturgia battesimale. La maggior parte dei semiariani, e soprattutto degli ariani puri, si dichiararono contro la divinità dello Spirito Santo. Per questo motivo furono chiamati pneumatomachi, cioè avversari dello Spirito, ed anche macedoniani, dal nome di Macedonio, vescovo intruso di Costantinopoli, che fu uno dei loro capi più eminenti, e venne deposto nel 360. Questa nuova disputa aveva il vantaggio di costringere le menti a considerare il dogma della Trinità in tutta la sua ampiezza. Fu vanto del grande imperatore Teodosio mettere un punto finale a quelle interminabili controversie, attraverso le quali, tuttavia, la teologia della Trinità aveva preso una mirabile consistenza. Fin dal battesimo, ricevuto all'età adulta, Teodosio aveva dichiarato di volersi attenere in tutto, ma semplicemente in materia trinitaria, al pensiero del Vescovo di Roma e alla fede professata in comune dal Papa e dal Vescovo Atanasio di Alessandria. Ma una volta diventato imperatore, comprese che gli orientali conservavano una certa suscettibilità riguardo al Papa e al successore di Atanasio. Ebbe quindi l'accortezza di radunare a Costantinopoli un concilio di soli orientali. Era da poco tempo vescovo della città Gregorio Nazianzeno, grande oratore, grande teologo e autentico santo. L'imperatore cominciò a far restituire ai cattolici tutte le chiese delle città che erano state occupate dagli ariani. Quindi l'accordo con Gregorio Nazianzeno, d'accordo con Gregorio Nazianzeno, convocò i vescovi orientali. Ne vennero 186, di cui 36 pneumatomachi. Il concilio fu presieduto successivamente da Melezio di Antiochia, da San Gregorio Nazianzeno e, dopo le dimissioni di quest'ultimo, dal suo successore Nettario. Esso consacrò definitivamente la dottrina di Nicea, scagliò l'anatema contro l'arianesimo e il semi-arianesimo, specialmente contro l'eresia degli Anomei e degli Omei, come pure degli Omeusiani. Infine, il concilio proclamò la divinità dello Spirito Santo, pari a quella del Verbo del Padre. Gli pneumatomachi furono quindi respinti dalla Chiesa, e in questo senso fu completato il simbolo di Nicea. L'arianesimo continuò a vivere più presso sol più presso i barbari fino al VII secolo. Capitolo terzo. Eresie in Occidente. Caratteristiche generali. Passando dall'Oriente all'Occidente, è impossibile non rilevare una profonda differenza tra le eresie che sono sorte da una parte all'altra. Le grandi eresie del IV secolo si erano sviluppate soprattutto in Oriente, ma avevano avuto indubbiamente una ripercussione anche in Occidente. In particolare la sede di Roma aveva sempre avuto la sua parola da dire nella determinazione del dogma cattolico di fronte a ciascuna di esse. Però tutti i capi di sette erano stati orientali. Le eresie di cui dovremo parlare nel presente capitolo nacquero invece in Occidente e avevano un carattere del tutto diverso. Il genio orientale indugiava con ardore soprattutto sui grandi problemi metafisici, la Trinità, la divinità del Verbo e quella dello Spirito Santo, la creazione del mondo e l'origine del male. E sarà quasi sempre così anche in seguito. Si tratterà della unione ipostatica delle due nature di Gesù Cristo, dell'unione in Lui della volontà divina e di quella umana, eccetera. Si potrebbe dire che il genio greco è attratto maggiormente verso gli oggetti, mentre l'anima occidentale si rivolge di preferenza verso il soggetto, l'uomo, la libertà umana, la grazia, la predestinazione, la fede e le opere, il male in noi. I greci si sono mostrati sempre amanti dell'alta metafisica e i latini della psicologia. Non si deve tuttavia spingere troppo oltre questa distinzione. I latini infatti non hanno esitato a seguire i greci nelle loro altre speculazioni e i trattati sulla Trinità e sulla Incarnazione non sono stati minori in Occidente che in Oriente. Ma l'iniziativa non partiva da loro. In senso inverso, il problema della grazia e del suo legame con la libertà umana è stato approfondito con maggior vigore in Occidente che in Oriente. Tenendo conto di questa premessa, passeremo in rassegna le eresie occidentali. Lo scisma donatista. Se si parla di uno scisma a proposito del donatismo africano, non significa che non vi sia stata nel frattempo della questione una precisa eresia. Lo scisma ebbe origine in occasione delle elezioni di Ceciliano ad arcivescovo di Cartagine. Si formò un partito contro di lui. Si pretese che la sua consacrazione per mano del vescovo Felice di Aptonga fosse invalida. Si diceva infatti che Felice, al tempo della prescrizione, avesse consegnato i libri sacri alla polizia. Essere stato, come si diceva, un traditore. Gli toglieva per sempre il potere di consacrare validamente. Questa teoria si riaccostava alquanto all'errore dello stesso San Cipriano, vescovo di Cartagine, quando aveva affermato contro il pensiero di Roma che il battesimo conferito dagli eretici era invalido, e gli avversari di Ceciliano si appellavano all'autorità di Cipriano. Il loro capo fu un certo Donato, detto delle Capanne Nere, dalla località africana di cui era vescovo, e il loro più insigne teologo fu un altro Donato, che chiamarono il Grande, di qui il nome di Donatisti. Essi trovavano facilmente dei seguaci in un paese dalle accese passioni come l'Africa, e dove abbandonavano gli scontenti contro la dominazione romana. I donatisti ebbero anche delle pattuglie d'assalto, come diremo oggi, sotto forma di bande fanatiche, composte di uomini che si attribuivano il nome di soldati di Cristo, ma che i cattolici soprannominarono circoncellioni o vagabondi. Dal punto di vista dottrinale, i donatisti, non senza varianti, professavano due principi ugualmente eretici. Il primo, i peccatori pubblici e manifesti, specialmente i vescovi, i preti, i prevaricatori, non appartengono più alla Chiesa. Secondo, fuori dalla vera Chiesa tutti i sacramenti sono invalidi. Cosa ancora più grave, i donatisti pretendevano scacciare dalla Chiesa non solo i vescovi, i preti che essi accusavano di prevaricazione, ma anche tutti i fedeli che restavano in comunione con loro. Giungevano quindi a considerarsi come la sola vera Chiesa. Tutto il resto della Chiesa, a sentir loro, era fuori dalla verità cristiana. Si era ben lontani dallo spirito di misericordia che regna nel Vangelo. Un'eresia così radicale e perniciosa doveva essere vigorosamente combattuta dai cattolici. Il donatismo fu infatti condannato nel concilio Lateranense a Roma nel 313 e quindi nel 314 in quello di Arles, presieduto dall'imperatore Costantino. Gli imperatori furono fin da allora tutti senza eccezione, salvo Giuliano l'Apostata, decisi avversari del donatismo, ma senza riuscire a sradicarlo. Ragioni politiche e un nazionalismo africano, analogo a quello che Costantino ai nostri giorni, agivano sugli animi in favore della setta. Il grande avversario dottrinale del donatismo fu nel V secolo Sant'Agostino, vescovo di Ippona. Nel 411 si tenne a Cartagine un grande concilio a forma di contraddittorio. Erano presenti 286 vescovi cattolici africani contro 279 donatisti. Vi erano quindi quasi dovunque nei pressi africani due vescovi, uno cattolico e uno donatista. Il concilio, grazie all'eloquenza e alla scienza biblica di Agostino, tornò a confusione degli scismatici. Lo Stato prese severe misure contro di essi. Le conversioni si moltiplicarono e l'eresia scomparve a poco. Queste dispute, talvolta così accese, ebbero un buon risultato. Si stabilì infatti, primo, che non si esce dalla Chiesa con il peccato, anche mortale e pubblico, ma solo con l'apostasia della fede. Secondo, che non si chiede nel ministro di un sacramento lo stato di grazia perché quel sacramento sia valido. Il priscillianismo. L'eresia prisciliana deve la sua origine a un certo Prisciliano, vescovo di Aviglia, il futuro luogo di nascita di Santa Teresa. Prisciliano apparteneva a una nobile famiglia spagnola ed era versato nell'arte, allora molto popolare, della divinazione, che confinava in più delle volte con la magia. Aveva cominciato verso il 370 a diffondere idee di origine gnostica e manichea, per mezzo delle quali si vantava di condurre i suoi discepoli alla perfezione. Aveva così acquistato la fiducia di parecchi vescovi spagnoli ed era diventato lui stesso vescovo. Le sue dottrine furono tuttavia validamente combattute dai vescovi ortodossi. Sant'Ambrogio in Italia e San Martino nella Gallia presero parte alle controversie che esse suscitavano. Prisciliano fu condannato da parecchi concili e consegnato alla giustizia civile, con gran dispiacere di San Martino di Tours, il quale pensava che si dovessero convertire gli eretici e non condannarli a morte. La morte di Prisciliano fu collocata intorno al 385, ma egli lasciava dei seguaci che prolungarono e anzi aggravarono i suoi errori. Essi si possono considerare come lontani antenati degli albigesi. Praticavano una certa magia, credevano nel destino scritto, secondo loro, negli astri. Due secoli dopo, il Papa Gregorio Magno si vedeva ancora costretto a confutarli. Occorre sapere, scriva, che gli eretici prescilianisti pensano che ogni uomo nasce sotto una combinazione di stelle e chiamano in aiuto del proprio errore il fatto che una nuova stella apparve quando Nostro Signore si mostrò nella carne. Il concilio lusitano di Braga aveva condannato solennemente i prescilianisti nel 565. Errori sullo stato di verginità. Se citiamo qui i nomi di Elvidio, Bonosea, Gioviniano e Vigilanzio, non è perché essi abbiano prodotto gravi dissidi nella Chiesa. Questi personaggi sono noti solo attraverso le vigorose confutazioni di San Gerolamo e di alcuni altri padri. Furono tutti più o meno avversari dell'ascetismo cristiano e specialmente della pratica, antica quanto la Chiesa, della verginità consacrata a Dio. Ciò che la Chiesa, attraverso la voce di Don Girolamo e le decisioni del Concilio, volle stabilire contro di essi. 1. La superiorità dello stato di verginità consacrata a Dio nella vita religiosa sullo stato di matrimonio. 2. La perpetua verginità di Maria, madre del Salvatore. 3. L'utilità e il merito dell'ascetismo cristiano, della pratica dei digiuni, delle astinenze e della vita monastica. 4. La legittimità del culto dei santi e delle reliquie. Le negazioni di quegli eretici su tutti questi punti si ritroveranno 12 secoli dopo, in seno al protestantesimo. Il più noto di essi, Gioviniano in Italia, a quanto sembra, fu condannato nel 390 da Papa Siricio in un concilio tenuto a Roma e da Sant'Ambrogio nel 391 in un concilio tenuto a Milano. Pelagio e Pelagianesimo. Molto più grave fu l'eresia che si ricorreva nel nome di Pelagio. Questi era nato in Inghilterra intorno al 354, data della nascita di Sant'Agostino, che doveva essere il suo grande avversario. Pare che sia venuto a Roma verso il 384. Era un uomo di grande talento e di insigne virtù. Oratore, scrittore, esegeta, rimase dottore, laico e indipendente, ma si riallacciava forse alle dottrine dello pseudo Ambrogio, l'Ambrosiaster, che si ispirava alla scuola di Antiochia. Pelagio era certamente in assoluta buona fede. Non sembra che abbia mai pensato a fare uno scisma o a fondare una setta. Suo scopo era di reagire contro una religione superficiale e tutta esteriore, come quella che vedeva propagarsi nel mondo pagano convertito in massa al cristianesimo. Scrisse molto, ma la maggior parte delle sue opere sono andate perdute. Si conservano alcuni lavori di esegesi e soprattutto una lettera a Demetriade, che è come un trattato di spiritualità. Pelagio era anzitutto un moralista severo e intransigente, un rigorista alla sua maniera, che era all'opposto di quella dei giansenisti, di cui dovremo parlare più avanti. Predicava il distacco dalle ricchezze, la pratica dei consigli evangelici di povertà e di carità, in tutto il loro rigore. Combatté con forza qualunque rilassamento, insistendo sulle sanzioni eterne dei nostri atti. Il paradiso e l'inferno. In che cosa consiste dunque l'eresia di un direttore di anime così zelante e degno di rispetto? Nel fatto che egli deforma la grazia, propone alle anime un alto ideale di giustizia, cioè di santità, ma per questo conta soprattutto sulla volontà individuale, sulla libertà umana interamente protesa verso Dio. Senza dubbio Pelagio non può fare a meno di parlare della grazia, di cui si tratta così spesso negli scritti di San Paolo, ma per lui la grazia è semplicemente la natura stessa, così splendidamente dotata da Dio nella creazione. Anche noi, certo, ringraziamo Dio dei suoi doni, ma crediamo che il peccato originale ci ha fatto perdere gran parte di questi doni. Ora Pelagio nega il peccato originale. È impossibile, secondo lui, che l'anima immediatamente creata da Dio sia caricata di un peccato che non ha commesso. Gli si obietta il fatto del battesimo dei bambini, in uso nella Chiesa fin dalle origini. Pelagio si rifiuta di ammettere che tale battesimo cancelli un peccato originale nell'anima di coloro che lo ricevono. Negli adulti, senza dubbio, il battesimo cancella i peccati commessi in precedenza, ma non si può dire che essa venga conferito ai bambini, in remissione dei peccati. Non ha altro scopo che quello di aprire il loro regno dei cieli, ma questo regno è solo un aspetto della vita eterna. Anche i bambini, molti senza battesimo, vanno in paradiso, ma non nel regno dei cieli, che è soltanto una parte di esso. Pelagio, tuttavia, evita di spiegarsi su questo punto oscuro. Ciò che egli soprattutto prediligeva era magnificare l'attitudine della nostra libertà a scegliere a suo arbitrio fra il bene e il male ed adempiere con le proprie forze tutta la legge divina. Il suo discepolo più insigne, il vescovo italiano Giuliano di Eclano, dirà in termini giuridici: mediante il libero arbitrio l'uomo si è sentito emancipato da Dio. Voleva intendere che noi non siamo degli schiavi, grazie alla nostra libertà. Possiamo dire a Dio sì o no, a nostro piacere, a nostro rischio e pericolo. Il primo dovere dell'uomo è dunque prendere coscienza di questa sublime autonomia e di usarne per la propria completa santificazione. La dottrina di Pelagio aveva sembianze di grandezza, e questo appunto spiega il gran numero di vittime che riuscì a fare. Egli esaltava la volontà umana. In certi ambienti romani, in cui sopravviveva lo stoicismo, non si poteva fare a meno di applaudire a questa rivendicazione dell'energia umana. Pelagio pare abbia predicato liberamente senza trovare ostilità in Italia fino al 410, ma a quell'epoca si verificò una catastrofe spaventosa. Le frontiere romane cedevano da tutte le parti sotto la pressione delle invasioni barbariche. Bande di visigoti guidate da Alarico si diffusero attraverso il nord dell'Italia e presto raggiunsero Roma. La città eterna, come già era chiamata, fu presa e orribilmente saccheggiata. Si pensò alla fine del mondo. Le popolazioni sgomente fuggivano nella direzione opposta a quella dei barbari. Pelagio e il suo più eminente discepolo romano, il giovane avvocato Celestino, furono nel numero dei profughi. Passarono dapprima in Africa, ma mentre Pelagio si recava in Palestina, dove riceveva un'accoglienza abbastanza favorevole, Celestino sollevava intorno a sé obiezioni, critiche e opposizioni ben motivate. Nel 411 si radunò un concilio a Cartagine. Vi furono condannate le sue dottrine e lui stesso fu scomunicato. Fece appello a Roma, ma invece di recarsi dal Papa per patrocinarle, la prima causa fuggì a Efeso, dove si fece ordinare prete. In Africa, frattanto, continuava la lotta contro le sue dottrine. Sant'Agostino ne fu l'animatore. Scrisse l'uno dopo l'altro parecchi libri contro il pelagianesimo, De spiritu e littera, lo spirito e la lettura, nel 412, De natura e grazia, la natura e la grazia, nel 415 e altri ancora. Appunto allora meritò di diventare quello che è rimasto per noi il dottore della grazia. Nessuno meglio di lui seppe ricavare dalla scrittura e dalla tradizione la dottrina della Chiesa. 1. Sul peccato originale. 2. Sulla necessità del battesimo per la salvezza. 3. Sull'azione preveniente e adiuvante della grazia nell'opera della nostra salvezza. Il pelagianesimo, dapprima mal compreso dagli orientali e dichiarato ortodosso nel Concilio di Gerusalemme e in quello di Diapolis nel 415, fu senza tregua condannato dai concili africani, approvati da Roma. A dispetto delle astute tattiche dei pelagiani, i quali si difendevano con ogni sorta di cavilli, il Papa Zosimo, ingannato per qualche istante, finì per colpire di anatema questa eresia perniciosa e sottile in un'enciclica intitolata Epistola Tractoria estate del 418. Vi furono tuttavia 18 vescovi italiani, il più noto dei quali è Giuliano di Eclano, che rifiutarono di sottoscrivere la dottrina definita dal Papa. Ma furono vigorosamente confutati e l'eresia scomparve con discreta rapidità. Semi-pelagianesimo. Sant'Agostino aveva tratto dal Vangelo e dalle epistole di San Paolo tutti gli argomenti che opponeva al pelagianesimo. Non aveva fatto fatica a dimostrare che si intaccavano le fondamenta stesse della fede cristiana. Il pelagianesimo tendeva per se stesso a dimostrare l'inutilità del Cristo. Sarà più tardi il grande argomento del giansenismo. Se non vi è stato peccato originale, non c'è bisogno di un Redentore. È inutile la preghiera se bastiamo noi stessi. Nessuno viene a me se il Padre mio non lo attrae, aveva detto Gesù. Che cosa hai che non hai ricevuto? Se l'hai ricevuto, perché gloriarti come se non l'avessi ricevuto? Aveva dichiarato San Paolo. Vi è in questi testi una tale forza dimostrativa che il pelagianesimo non avrebbe potuto opporsi. Ma vi furono mezzogiorno della Francia, ma vi furono nel mezzogiorno della Francia dei monaci che rimasero turbati dal vigore delle espressioni di Sant'Agostino sulla necessità della grazia. Pensarono che non si disse al libero arbitrio la parte pensarono che non si desse al libero arbitrio la parte che gli spettava nelle opere della salvezza. Loro interprete fu il celebre autore delle conferenze spirituali, Giovanni Cassiano, fondatore del monastero di San Vittore di Marsiglia. Giovanni Cassiano ammetteva la necessità della grazia, raccomandava la preghiera, anzi la preghiera incessante. Ma nella sua conferenza 13 propose sotto l'etichetta degli asceti, dei più autori spirituali del deserto egiziano, che egli aveva conosciuto e consultato la seguente dottrina. Primo, è in potere dell'uomo volgersi per primo verso Dio, così come è potere del malato andare per primo a chiamare in aiuto il medico. Due, allo stesso modo la predestinazione eterna dipende in ultima analisi dalla volontà umana, poiché spetta ad essa perseverare sino alla fine. In altri termini, Cassiano rigettava la grazia proveniente la grazia di perseveranza finale. Messo al corrente da mio dei suoi discepoli, San Prospero di Aquitania, Agostino scrisse subito due libri sull'argomento, nei quali confutava ciò che fu chiamato per secoli l'errore dei marsigliesi, ma che noi chiamiamo, a partire dal secolo XVII, il semipelagianesimo. Egli insisteva sulle parole di Cristo: «Senza di me non potete far nulla», e sugli altri testi citati più sopra. Dopo la morte di Agostino, 28 agosto 430, la sua dottrina fu confermata da un'enciclica del Papa Celestino I ai vescovi delle Gallie. Non vi fu condanna di persone. Le idee di Cassiano furono sostenute da uno scrittore degno di nota, San Vincenzo di Lerins, e da un vescovo zelante, Fausto de Ritz, ma nelle Gallie si sviluppò prevalentemente l'agostinismo, e infine furono due grandi vescovi della regione, San Cesario di Arles e Sant'Avito di Vienna, che assicurarono la definitiva condanna del semipelagianesimo nel concilio di Orange del 529. Il Papa Bonifacio II approvò solennemente i decreti di questo concilio nel 532. Fu stabilito che l'uomo decaduto per il peccato originale non può né ottenere la fede né desiderarla senza una grazia preventiva. Tantomeno può preservare nel bene senza una sequela di grazie adiuvanti, né preservare sino alla fine senza un dono speciale collegato alla sua predestinazione. Erano gravi e difficili problemi. Ci si può chiedere se talora Sant'Agostino, nel suo zelo di riferire tutto a Dio nell'opera della salvezza e del suo impegno di stabilire la necessità della predestinazione, non abbia aperto la via a dottrine confinanti con il fatalismo. Quel che è incontestabile è il fatto che egli sarà continuamente invocato dai predestinaziani. Era stato già necessario condannare il prete Lucido per la sua dottrina a questo proposito. Parimenti Lutero, Calvino, Baio e Giansenio pretenderanno di porsi sotto il patrocinio di Agostino e la Chiesa dovrà dare del pensiero agostiniano un'interpretazione capace di conciliare il diritto della libertà umana e l'azione della grazia divina. Come sempre sarà fra i due estremi ugualmente falsi che la dottrina cattolica dovrà tracciare e mantenere la sua via, ma nasceranno su questo punto gravi controversie che certo non saranno mai definitivamente risolte, soprattutto tomismo e molinismo. Il detto di Bossé: teniamo saldi i due capi della catena, rimarrà una parola di saggezza per tutti. Capitolo quarto. Gli errori cristologici dal IV al VII secolo. L'apollinarismo. Se lasciamo l'Occidente per tornare in Oriente, vi troviamo ancora delle controversie di ordine speculativo. Si discute meno sulla grazia e sulla libertà umana che sulla natura di Cristo e sulla unione in Lui della natura umana e della natura divina, ed è sempre in stretto legame con le eresie ariane e semiariane che si producono nuove deviazioni dottrinali. Si è visto ad esempio che per Ario l'anima di Cristo non era altro che il Verbo, la prima creatura tratta dal nulla da Dio. Troveremo qualcosa di simile con il vescovo Apollinare di Laodicea. Questi era un uomo di virtù e di scienza. Si era mostrato avversario risoluto dell'arianesimo, sostenendo la divinità del Verbo o Logos, ma non seppe difendersi dall'errore dello stesso Ario in cui ciò che riguarda l'anima di Cristo. Per lui, come per Ario, è il Verbo che tiene il posto di quest'anima. E interpreta in tal senso al pari di Ario le parole del Vangelo: e il Verbo si fece carne, Giovanni 1,14. Credeva con ciò di salvaguardare meglio l'unità di persone in Cristo e soprattutto la sua perfetta santità, poiché diceva dal momento che esiste l'uomo completo esiste anche il peccato. L'apollinarismo fu tuttavia rigettato in parecchi concili, particolarmente nel grande concilio di Costantinopoli del 381. Nestorio e il nestorianesimo. Per meglio combattere l'apollinarismo, il più insigne dottore della scuola di Antiochia, Diodoro, vescovo di Tarso dal 378, aveva manifestato una certa tendenza ad opporre il figlio di Dio consostanziale al padre, al figlio di Davide, nato dalla Vergine. Il figlio di David, secondo lui, era stato solo il tempio del figlio di Dio. Maria non meritava quindi per alcun motivo l'attributo di madre di Dio. Diodoro, illustre vescovo e teologo, intendeva bensì salvaguardare l'unità morale di Cristo, ma non si accorgeva di salvaguardarla solo al Padre. In realtà sembrava ammettere due persone nello stesso Cristo, una persona divina e una persona umana. Dopo Diodoro, che era morto nel 394, il suo migliore discepolo Teodoro, vescovo di Mopsuestia dal 392, si dedica a penetrare quella che noi chiamiamo oggi la psicologia umana del Cristo. Egli lo vede svilupparsi come ogni altro uomo, o lottare al pari degli altri contro la tentazione, ma finire col meritare la sua unione con il Verbo. Teodoro aveva tuttavia avuto cura di rivestire il suo pensiero di forme così tradizionali da non sollevare alcuna protesta. Però nell'anno stesso della sua morte, avvenuta nel 428, uno dei suoi discepoli, il prete Anastasio, condotto da Antiochia a Costantinopoli dal nuovo vescovo di questa città, Nestorio, si ispirò alle sue idee nella propria predicazione. Dovendo parlare in pubblico della Vergine Maria, contestò al popolo cristiano il diritto di chiamarla Madre di Dio, Theotokos, come si usava a fare ormai da lungo tempo. Questa opinione del prete Anastasio produsse sbigottimento nella città. Davanti allo stupore dei fedeli, Nestorio, che considerava la convinzione di Atanasio dietro le orme di Diodoro di Tarso e di Teodoro Mopsuesteno, prese decisamente posizione in suo favore. Un laico di nome Eusebio, che diverrà più tardi vescovo di Dorilea, protestò ad alta voce contro il linguaggio del vescovo. Tutta la città e la corte si trovarono interdette. La corte imperiale si schierò con il vescovo, ma i monaci e il popolo erano per la tradizione mariana. Presto il rumore di questa controversia giunse ad Alessandria, sede episcopale in rivalità secolare con la scuola di Antiochia e con la sede di Costantinopoli. Il vescovo di Alessandria era appunto un teologo di primissimo piano, Cirillo. Egli intervenne senza indugi dapprima con cortesia, rivolgendosi direttamente a Nestorio. Poi, quando vide che le sue osservazioni erano accettate, si rivolse a Roma. Nestorio aveva già fatto altrettanto. Da una parte all'altra si comprendeva benissimo che il nodo della questione risiedeva nell'uso dell'attributo Madre di Dio applicato a Maria. Se glielo si rifiuta, si veniva a rompere l'unità di persona in Gesù Cristo. Invece in una persona se ne ammettevano due: la persona umana di Cristo, di cui Maria era madre, Cristo Tokos, e la persona divina del Verbo, aggiunta a quella di Cristo, in un'unione puramente morale. Se invece si ammetteva in Cristo una sola persona, quella del Verbo, come aveva sempre fatto la tradizione cristiana, ne seguiva che la relazione di maternità, in quanto riguardava la persona, attraverso la natura generata, doveva avere come termine il Verbo. Maria doveva essere detta in quanto fonte della natura umana di Cristo, madre di Dio. Maternità e filiazione si dicono infatti da persona a persona. A Roma così si intendevano le cose. Il Papa Celestino diede ragione a Cirillo contro Nestorio, il suo primo diacono Leone, il futuro Papa. Scrisse subito a Giovanni Cassiano, che conosceva da lungo tempo, per chiedergli di scrivere un trattato sull'argomento. Cassiano obbedì a questo desiderio e noi possediamo il suo trattato, in cui egli dimostra attraverso la scrittura e la tradizione che Maria non deve essere chiamata solo madre di Cristo, a meno che non si specifichi subito che ciò significa madre di Dio. Se Nestorio rifiutava di ammettere questa conclusione, era impossibile non trattarlo come eretico, e la cosa era così grave che si doveva radunare al più presto un concilio generale. Cirillo, nel frattempo, aveva riassunto il suo pensiero in 12 anatemi. Nestorio vi aveva risposto con 12 controanatemi e accusato Cirillo di ricadere nell'appollinarismo, facendo del Verbo il sostituto della persona umana di Cristo. Il Concilio di Efeso del 431. I due imperatori Teodosio II orientale e Valentiniano III occidentale avevano convocato i vescovi a Efeso per il 7 di giugno. In tale data si ritrovò presente Cirillo con un certo numero di vescovi, ma non erano giunti né i legati del Papa né i vescovi antiochieni. Cirillo, il personaggio più illustre di quelli che erano riuniti, pazientò per 15 giorni, non senza trattare abilmente con la corte. Quindi il 22 giugno, senza attendere altro, aprì il concilio, che in un giorno risolse la controversia, condannò Nestorio e lo depose. I vescovi in meno di 198 e il popolo acclamarono questa decisione. Quattro giorni dopo giunse Giovanni d'Antiochia con i suoi vescovi, tutti favorevoli a Nestorio, che era, come si è detto, della scuola antiochiena. Essi opposero quindi subito un controconcilio a quello del 22 giugno, condannarono e scomunicarono Cirillo e annullarono quanto era stato fatto in loro assenza. Fu il secondo atto del dramma, ma seguì immediatamente il terzo. Giunsero infatti presto i legati del Papa. Portavano una condanna formale di Nestorio preannunciata dal Papa Celestino I in un sinodo romano. Avevano ricevuto dal Papa l'incarico di chiedere a Cirillo e all'intero concilio una semplice promulgazione del giudizio inappellabile già pronunciato dal pontefice romano. Essi approvarono quindi l'11 luglio del 431 tutte le decisioni prese da Cirillo e dal concilio il 22 giugno precedente. Nestorio, tuttavia, contava sempre nell'appoggio della corte imperiale. Fra questa e Cirillo si impegnò una lotta diplomatica. Nella quale il vescovo di Alessandria deve essere ricorso a procedimenti che erano anche troppo in uso in quel tempo, colmando di doni i consiglieri più influenti dell'imperatore. In fondo aveva buoni motivi per farlo. Teodoro II si lasciò convincere, fece rinchiudere Nestorio in un monastero e lasciò rientrare Cirillo come vincitore ad Alessandria. Mentre Giovanni di Antiochia tornava molto scontento in Siria, Cirillo da parte sua dovette provare di non ammettere in alcun modo l'apollinarismo perché fosse finalmente ristabilita la pace fra lui e i vescovi antiochieni. 433. Nestorio, mandato più tardi in esilio, vi compose un'opera intitolata Il libro di Eraclide di Damasco. Questo scritto, rinvenuto nel 1910, è una corta apologia, ma l'eresia di Nestorio, per quanto velata, vi rimane abbastanza visibile, anche dopo che gli scritti di Nestorio erano stati condannati alle fiamme. La sua eresia sopravvisse nelle opere di Diodoro di Tarso e di Teodoro Mopsuesteno. Conservò quindi degli adepti e ne conserva ancora i nostri giorni. Si formò una scuola teologica a Odessa e quindi a Nisibi in Persia. Il nestorianesimo si propagò di qui nell'Arabia, nelle Indie e perfino nella Cina e nella Mongolia. Tuttavia la maggior parte dei nestoriani tornarono a partire dal XVI secolo all'unità cattolica. Alcuni caddero sotto l'influsso dei missionari protestanti americani e anglicani. Altri passarono all'ortodossia russa a partire dal 1897. Durante la Prima Guerra Mondiale molti furono massacrati dai turchi. Altri furono sui monti del Kurdistan o in Mesopotamia. Vi sono attualmente dei nestoriani nell'Iraq, nella Siria, nella Persia e nell'India. Si calcolano a 30.000 quelli dell'Iraq, ad alcune migliaia quelli della Siria, 9.000 quelli della Persia e infine 2.000 quelli che restano in India sotto il nome di Mellusiani. In totale certamente meno di 100.000 nestoriani autentici. L'eutichianesimo. Con il nestorianesimo era stata una reazione contro l'apollinarismo, così l'eutichianesimo fu una reazione contro il nestorianesimo, ma così eccessiva da cadere nell'errore opposto. Si è visto come Cirillo d'Alessandria si fosse dovuto difendere dal sospetto di appollinarismo, per meglio esprimere l'utilità di persona in Cristo, egli aveva usato poco opportunamente l'espressione unità fisica dell'umanità e della divinità nella sola persona del Verbo. Ai nostri giorni diciamo unione ipostatica, che significa unione delle due nature distinte in una sola persona. Ma prima che fossero raggiunte queste precisazioni, vi fu un monaco di Costantinopoli di nome Eutiche, archimandrita di una grande monastero della città, che convinto di essere fedele al pensiero di Cirillo si fece notare con il suo zelo nel parlare dell'unione fisica dell'uomo e del divino in Gesù Cristo. Cirillo era morto nel 444. Il suo pensiero personale era certamente ortodosso, ma Eutiche lo traduceva male. Egli sembra aver ammesso che Gesù Cristo, l'unità, è assorbita dalla divinità e fusa in essa, come una goccia d'acqua nell'oceano. Lo stesso Eusebio di Dorilea, che aveva denunciato Nestorio, denunciò Eutiche al suo vescovo Flaviano di Costantinopoli, che lo fece condannare in un simbolo fin dal 448. Eutiche, come era allora usanza comune, fece subito ricorso a Roma. Governava allora la Chiesa dal 440 San Leone Magno. Nello stesso tempo Eutiche chiese aioto al vescovo di Alessandria di Oscoro, che riuscì a convincere subito, come pure l'appoggio dell'imperatore, che era sempre Teodosio II. Dietro le sue istanze, quest'ultimo radunò un concilio ancora nella città di Efeso. Il concilio di Calcedonia del 451. Il concilio che si radunò a Efeso nel 449 fu contrassegnato da spiacevoli violenze. Era presieduto da Dioscoro di Alessandria. Al legato del Papa fu negato il primo posto che pure gli spettava. I 135 vescovi presenti furono costretti sotto la minaccia delle armi di bande di monaci guadagnate alla casa di Eutiche a sottoscrivere, per così dire, in bianco la condanna della dottrina ortodossa stigmatizzata con il nome di diofisismo, due nature in Gesù Cristo. Flaviano di Costantinopoli fu maltrattato e l'imperatore tratto in errore. Confermò la sentenza che lo deponeva e lo mandava in esilio, dove morì. Per fortuna i legali del Papa erano riusciti a fuggire. Il Papa San Leone, informato da essi di quanto era accaduto, non perdette tempo per stroncare i progressi del male. Radunò un simbolo a Roma, secondo l'uso pontificio del tempo. Questo simbolo romano, tenuto nel 449, annullò tutte le procedure di Efeso e il Papa chiamò quel vergognoso concilio Latrocinium, e il nome gli è rimasto, il Latrocinium di Efeso. La morte dell'imperatore Teodosio li precipitò la soluzione di questo doloroso conflitto. Egli ebbe come successore il 28 luglio del 450 la sorella Pulcheria. D'accordo con Marciano, suo sposo, essa convocò un concilio generale che si aprì a Calcedonia, l'attuale Cadiche Cheui, di rimpetto a Costantinopoli, nel territorio asiatico. Questa volta tutto si svolse correttamente. La presidenza fu data ai legali del Papa. Dioscoro di Alessandria era presente, ma aveva con sé solo una ventina di vescovi egiziani, sperduti nella moltitudine dei 500-600 vescovi accorsi al concilio. Egli fu giudicato e condannato alla deposizione per la condotta tenuta al concilio di Efeso. La vera dottrina era stata magistralmente esposta due anni prima dal Papa San Leone in una lettera rimasta famosa indirizzata al patriarca Flaviano. Essa verteva sui seguenti punti, che costituiscono un vero compendio della fede cattolica. Il primo: in Gesù Cristo vi è un'unica persona, la persona del Verbo incarnato della nostra natura. Secondo: Nell'unica persona del Verbo si trovano, dopo l'incarnazione, due nature, la natura divina e la natura umana, senza fusione o confusione possibili. 3. Ciascuna di queste due nature conserva la propria operazione che esplica in comunione con l'altra. In verità, 4. In verità della unione sostanziale delle due nature si deve attribuire unicamente al Verbo tutto ciò che in Cristo spetta al Figlio di Dio e al Figlio dell'uomo. In questo senso si può appunto dire che Dio è morto per noi. L'attribuzione della sola persona del Verbo di tutto l'umano e di tutto il divino in Gesù Cristo ha ricevuto il nome di comunicazione degli idiomi, cioè scambio della proprietà di ciascuna natura. Quando al Concilio fu riletta con entusiasmo la lettera di San Leone, i padri esclamarono: Pietro ha parlato per bocca di Leone. E nella seguente professione di fede il dogma cristologico venne espresso in questi precisi termini: noi insegniamo tutti unanimemente un unico e stesso Figlio, nostro Signore, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, veramente Dio e veramente uomo, composto di un'anima ragionevole e di un corpo cosostanziale al Padre secondo la divinità e cosostanziale a noi secondo l'umanità, simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. Questa confusione fu sottoscritta da 300, questa confessione fu sottoscritta da 355 vescovi. Dopo che il Concilio ebbe terminato la sua opera dogmatica, i padri, a dispetto dell'opposizione dei legati, dichiararono con il famoso canone 28 che il patriarca di Costantinopoli avrebbe avuto nella Chiesa il secondo posto dopo il Papa di Roma. Ma ratificando gli atti del Concilio, il Papa dichiarò espressamente nel 453 di non approvare e di non confermare che la decisione riguardante la fede, che le decisioni riguardanti la fede e non è e non già le altre. Purtroppo i vescovi egiziani non si erano sottomessi. Essi consideravano l'eutichianesimo come la dottrina personale del loro grande dottore San Cirillo, il che era falso. Il monofisismo, una sola natura in Gesù Cristo, continuò ad essere professato in Egitto e il clero di questo paese passò ben presto allo scisma dichiarato, senza riferire qui in particolare gli innumerevoli incidenti che seguirono le controversie tra monofisisti cattolici ortodossi. Basti notare che i primi riuscirono a costruirsi una chiesa separata. Le divisioni che nacquero tra essi nel VI secolo, come accadde sempre quando si sia perduta l'unità romana, non impedirono loro di organizzarsi e di resistere. La chiesa monofisista esiste ancora in Armenia, in Siria, in Mesopotamia e in Egitto. I gruppi sono indipendenti gli uni dagli altri. Il più importante è quello che si trova in Egitto, dove costituisce la cosiddetta chiesa copta. I tre capitoli. Non si deve credere che la Chiesa perdesse il senso profondo della unità che aveva ricevuto dal suo fondatore. Al contrario, furono fatti tutti i tentativi per riconciliare le varie frazioni cristiane che la polemica monofisita aveva messo l'una contro l'altra. Tutto quello che dobbiamo dire ora rientra nell'ambito di questa più grave preoccupazione. Non dimentichiamo, del resto, che alla preoccupazione religiosa si univa una preoccupazione politica. La rottura dell'unità cattolica era resa più pericolosa, come era accaduto per il donatismo, dalle pressioni nazionalistiche locali che tendevano a dividere l'impero. Era stato un usurpatore egiziano, Basilisco, che aveva considerato Tichianesimo o monofisismo ad Alessandria verso il 475. Dopo la sua sconfitta, l'imperatore Zenone, mal consigliato dal patriarca Acacio di Costantinopoli, pubblicò una formula di conciliazione chiamata Enotica o Unificazione 484. Ma il Papa Felice II ritenne insufficiente e inammissibile questa formula. Acacio tenne duro e si separò dalla comunione romana. Fu lo scisma acacico che durò per 35 anni, 484-519. Questo scisma era fortunatamente terminato quando salì al trono il celebre imperatore Giustiniano 527-565. Questi fece come buona parte dei suoi predecessori. Considerò le questioni teologiche di attinenza del suo governo. Si lasciò guidare il più delle volte dalla sua colta e raffinata moglie Teodora, che era stata danzatrice, ma si piccava di alta scienza religiosa. Al fine di placare i monofisiti egiziani, Giustiniano radunò nel 553 un concilio a Costantinopoli che si è considerato come il quinto concilio ecumenico. Vi si condannarono come inquinati di nestorianesimo tre gruppi di scritti, noti da allora sotto il nome di tre capitoli. Il primo, gli scritti di Teodoro Mopsuesteno, morto nel 428. Secondo, quello di Teodoreto di Ciro, contro San Cirillo di Alessandria nel V secolo. Terzo, una lettera di Ibda, vescovo di Edessa, capo dei Nestoriani, indirizzata al Persiano Mari. Questi tre gruppi di scritti erano esecrati dai monofisiti. Condannandoli solennemente si dava loro piena soddisfazione, ma essi esigevano di più, sebbene sarebbe stato necessario secondo loro annullare le decisioni del concilio di Calcedonia e professare insieme con essi il monofisismo. Era impossibile ammettere ciò, perciò il Papa Vigilio si rese chiaramente conto che le decisioni del concilio non avrebbero prodotto alcun frutto di bene, ma siccome queste decisioni erano giustificate, finì per approvarle, non senza esitazione. La questione origenista. Nel concilio del 553 furono condannate anche le dottrine origeniste. Origene era stato, agli inizi del III secolo, il capo della scuola catechetica di Alessandria. Era dotato di un genio incomparabile e aveva scritto moltissimo. Era inevitabile che in quella moltitudine di opere uscite dalla sua mano e che numerosi copisti scrivevano sotto sua dettatura, si trovassero dottrine più o meno arrischiate. Vi sono infatti nelle opere che conosciamo di lui pagine magnifiche, idee splendenti e anche teorie piuttosto azzardate che l'ortodossia non ha potuto accettare. Sono le teorie che formano l'origenismo. Primo, la creazione eterna e il numero infinito dei mondi successivi. Secondo, la preesistenza platonica delle anime e la loro caduta nei corpi a modo di castigo per le colpe passate. Terzo, la corporeità degli angeli eterea. Quarto, la negazione dell'eternità dell'inferno, detta anche restaurazione universale mediante una riabilitazione generale dei dannati, compresa, a quanto sembra, quella di Satana. 5. La negazione della resurrezione della carne, come espressa nel simbolo degli apostoli. 6. La subordinazione del verbo al padre. 7. Quella dello Spirito Santo rispetto al verbo. Si attribuiva a Origene la dottrina secondo la quale il verbo esce unicamente negli esseri ragionevoli e lo spirito unicamente nei santi. Infine si rimprovera ad Origene e gli si rimprova anche ai nostri giorni il suo allegorismo generalizzato ed eccessivo in materia biblica. Le teorie origeniste furono oggetto di accese discussioni in seno alla Chiesa dopo la morte del grande scrittore. I monaci antropomorfi egiziani, turbati da questo allegorismo, erano i più accaniti. Furono approvati da uno scrittore di valore, Sant'Epifanio, vescovo di Salamina, nell'isola di Cipro, che denunciò con vigore quello che egli non esitava a chiamare l'eresia origenista. Aspre controversie, alle quali furono mischiati San Girolamo, ritiratosi in Palestina, e il suo amico Rufino, grande ammiratore di Origene, traduttore delle opere, delle sue opere principali, il De Principis, nacquero e turbarono tutto l'Oriente. Girolamo si mise in contrasto con questa occasione con Rufino e impiegò contro di lui una disputa spesso accompagnata da spiacevoli invettive. Si può dire che tutti i grandi dottori d'Oriente, Cirillo, Basilio e Crisostomo, dovettero prendere posizioni pro o contro Origene. Agli inizi del VI secolo si era formata una scuola origenista in Palestina. Si trattava di monaci amanti del grande dottore alessandrino. Dietro pressione di Efrem, vescovo di Antiochia, e di Pietro, vescovo di Gerusalemme, Giustiniano li fece condannare in un simbolo tenuto nel 543. Origene e l'origenismo furono colpiti con 10 anatemi particolareggiati che il Papa Vigilio confermò. Nel 553, prima del concilio ecumenico, fu ripresa tale condanna, questa volta in 15 anatemi. Sembra che il Papa Vigilio, allora presente a Costantinopoli, li abbia ancora una volta approvati. Infine, lo stesso concilio generale, senza tornare sugli anatemi pronunciati, pose Origene nel numero degli eretici. Si ammette ai nostri giorni che Origene non avesse detto tutto ciò che gli si attribuiva e che il suo allegorismo non è necessariamente dovunque erroneo. Affermazioni sicuramente sue sono la preesistenza delle anime, la loro caduta nei corpi, la restaurazione universale, la teoria che certi astri siano esseri animati. Meno certo è il fatto che egli abbia sostenuto le seguenti idee. Cristo si è fatto successivamente simile a ogni ordine di creature celesti. Il corpo di Cristo fu formato prima che si unisse con la sua anima. Cristo in un altro mondo sarà crocefisso per i demoni. Dio ha creato tutto ciò che era in suo potere di creare, eccetera. È assolutamente dubbio che egli abbia sostenuto che tutta la creazione materiale, tutti i corpi finiranno per essere annientati, che tutti gli spiriti saranno finalmente uniti a Dio come l'anima di Cristo e che allora avrà fine il regno di Cristo. Origene è rimasto per noi un soggetto di grande curiosità, mista di ammirazione e anche di venerazione, poiché i suoi errori, siccome la dottrina non era ancora fissata, possono essere considerati solo come eresie materiali e non formali. Sembra certo che egli fosse troppo uomo della Chiesa per non sottomettersi alle sue decisioni, qualora ve ne fossero state ai suoi tempi, sugli argomenti da lui trattati. Il monotelismo. Le concessioni fatte ai monofisiti, e in particolare la condanna dei tre capitoli, non avevano fatto che incoraggiarli. Non si erano sottomessi. Agli inizi del VII secolo, il patriarca di Costantinopoli, Sergio, mente duttile e astuta, progettò un nuovo sistema di conciliazione. Si era in lotta contro i persiani. L'unità dell'impero si imponeva con maggior forza che mai. Sergio propose quindi di insegnare che l'unione delle due nature in Gesù Cristo era così intima che non vi era mai stato in lui se non una sola volontà ed una sola azione. È ciò che viene chiamato il monotelismo o teoria della unica volontà. Nel frattempo, nel 631, un certo Ciro di Fasside divenne patriarca di Alessandria. È noto che questa città era la capitale del monofisismo. Ciro si associò alla dottrina di Sergio. I monofisisti poterono cantare vittoria. È stato il concilio di Calcedonia a venire a noi. Dicevano, e noi e non noi ad esso. Si elevarono tuttavia delle proteste. Il più insigne avversario della nuova teoria fu San Sofronio, vescovo di Gerusalemme dal 634. Sergio, per avere il sopravvento, cercò di conquistarsi il Papa Onorio, chiedendogli di dichiarare inopportuna questa distinzione di uno o due energie, di uno o due volontà di Cristo. Onorio, pro bono pacis, entrò nelle sue vedute e per quanto approvasse in fondo la dottrina di Sofronio, che era ortodossa, si pronunciò per Sergio. L'imperatore Eraclio prese la palla al balzo e pubblicò un formulario dottrinale chiamato Ectesi, nel 638. In Gesù Cristo, diceva questo documento, non vi è che una volontà e non si deve distinguere in lui fra uno o due energie. Era l'eresia, poiché la natura umana di Cristo, priva di volontà e di energia propria, non era più la natura umana come la possediamo noi. Essendo morti il Papa Onorio, i suoi successori Severino e quindi Giovanni IV rigettarono l'ectesi. Morendo nel 641, Eraclio dichiarò di sottomettersi al Papa e fece ricadere su Sergio la responsabilità del suo formulario del 638, ma il suo successore Costante II, 642-668, lo riprese. Roma e l'Occidente lo combatterono. Costante II, scosso, sostituì l'ectesi con un nuovo documento, il Tipo, 648. Che si limitava ad imporre il silenzio sulla controversa questione. Fin dal 649 il Papa Martino I riuniva un concilio in Laterano e vi faceva condannare da 105 vescovi tanto l'ectesi che il tipo. Irritato, l'imperatore fece arrestare il Papa, che fu maltrattato, mandato in esilio e morì nel Chersoneso nel 655. Noi lo onoriamo come martire il 12 novembre. Dopo la morte di Costante II, il suo successore Costantino IV, Pogonato, il Barbuto, si accordò con il Papa per convocare un concilio generale a Costantinopoli, il Sesto Ecumenico. 2 novembre 680, 16 settembre 671. Vi fu condannato solennemente il monotelismo e lo stesso Papa Onorio fu colpito da anatema per aver accettato gli empidocmi di Sergio. Ma confermando il concilio, il Papa Leone II, successore di Agatone, precisò il senso di questa condanna, spesso invocata contro l'infallibilità dei papi. Egli non ha saputo purificare questa Chiesa apostolica professando la tradizione apostolica e ha invece permesso che la fede immacolata fosse macchiata di un deplorevole tradimento. Gli si rimproverava quindi una mancanza di vigilanza, una debolezza piuttosto che un'adesione all'errore. Ai nostri giorni si ritiene che il pensiero di Onorio, qualunque cosa ne abbia detto i gallicani, sia rimasto sempre ortodosso, che egli non sia mai stato eretico nel significato preciso del termine. La questione delle immagini. Nell'arianesimo in poi si è visto che tutti gli errori e la maggior parte di essi si collegavano gli uni agli altri, anche l'origenismo, anteriore all'arianesimo. Ne era stato un preludio con la teoria della subordinazione del figlio al padre, così la gravissima questione delle immagini delle immagini usciamo da questo cerchio. Con la gravissima questione delle immagini usciamo da questo cerchio. Dal 717 regnava a Costantinopoli un ruzzo generale, diventato imperatore con il nome di Leone Isaurico. Non comprendeva naturalmente nulla delle cose di teologia, ma era consuetudine dell'impero legiferare in questa materia come in tutte le altre, imitando forse il califo arabo Issid II, che aveva proscritto le immagini nelle moschee e forse dietro il consiglio del vescovo frigio Costantino di Nicolea, egli prese nel 725 una serie di misure contro il culto delle immagini. Charles Dicle e Louis Breyer hanno dimostrato come il suo scopo fosse soprattutto quello di lottare contro l'eccessivo influsso dei monaci. Gli editti si succedettero aggravandosi senza tregua. Dapprima si erano condannate le immagini dei santi, degli angeli e dei martiri. Si giunse quindi a prescrivere anche le immagini di Cristo e della Vergine. Si può immaginare il turbamento dei fedeli, soprattutto in Oriente, dove le basiliche erano splendidamente ornate di mosaici policromi in nome di Cristo, della Vergine e dei Santi. Mani empie si diedero a distruggere tutto quel patrimonio artistico del passato. Il patriarca di Costantinopoli, San Germano, protestò energicamente, ma fu deposto e sostituito con un prelato ligio alla corte, Anastasio. I papi Gregorio II e Gregorio III condannarono a loro volta l'iconoclastia o distruzione delle immagini. Nel 727 e nel 731, un teologo di primo piano, San Giovanni da Damasceno, entrò in campo per difendere la legittimità del culto reso alle immagini, ma l'imperatore, che era molto autoritario, non cedette. Vi furono deplorevoli sottomissioni del clero, ma anche eroiche resistenze tra i monaci e i fedeli. Si segnalano in particolare come martiri della persecuzione alcune donne che avevano rovesciato la scala di un operaio iconoclasta. Il figlio e successore di Leone Isaurico, Costantino Copronimo, il sudicio, che regnò dal 741 al 775, proseguì la detestabile politica del padre. Soltanto sotto l'imperatore Leone IV, 775-780, e soprattutto sotto la sua vedova Irene, fu ristabilita la pace e riportato in onore il culto delle immagini. Irene, in pieno accordo con il Papa Adriano I, 772-795, e il Patriarca di Costantinopoli, San Teodosio, radunò, nonostante l'opposizione del partito militare, il Concilio di Nicea VII Ecumenico nel 787. Questo concilio definì chiaramente in quale senso sia legittimo onorare l'immagine. Si tratta di un culto relativo che si rivolge cioè alla persona rappresentata e non all'immagine stessa. Il Papa Adriano fece tutti i tentativi per far ammettere questa dottrina in Occidente, ma Carlo Magno, tratto in errore da una cattiva traduzione degli atti del concilio, pensò che si trattasse di onorare le immagini in un culto assoluto. In un trattato noto sotto il nome di Libri Carolingi si criticava aspramente il culto delle immagini, così male interpretato, e il concilio di Francoforte condannò tale culto nel 794. A poco, tuttavia, il malinteso fu chiarito e non vi sarà crisi di iconoclastia in Occidente se non sotto l'influsso di alcune sette protestanti come il calvinismo, che ancora oggi bandisce le immagini dai suoi templi. Una seconda crisi iconoclasta si verificò in Oriente nel IX secolo sotto gli imperatori Leone Armeno 813-820. Michele di Balbuziente 820-829 e Teofilo 829-842. Il primo e il terzo si mostrarono particolarmente accaniti. Il grande difensore dell'immagine fu allora San Tommaso Studita 826 e fu ancora una volta una donna, l'imperatrice Teodora, vedova Teofilo e madre di Michele III, che ebbe la gioia di ristabilire la pace restaurando il culto delle immagini. Appena salita al potere nell'842 si intese con il patriarca di Costantinopoli San Metidio, che radunò un concilio per confermarvi definitivamente i decreti di Nicea riguardo alle immagini. Capitolo V. Le eresie medievali. Caratteri generali. Si è avuta per molto tempo l'abitudine di considerare i lunghi secoli del Medioevo come secoli di ristagno intellettuale. Il presente capitolo ci mostrerà come non siano tuttavia mancate le eresie, eresie individuali o eresie collettive, e tutte hanno rivestito caratteri comuni. Esse furono non solo manifestazioni dello straordinario fenomeno intellettuale e sociale che ha segnato quel periodo, ma anche proteste incessantemente rinnovate contro il regime feudale e clericale del tempo. Le eresie senza dubbio pretendono di collocarsi unicamente e principalmente sul piano teologico e religioso, ma in realtà esse rientrano nell'antifeudalesimo, nell'anticlericalismo, nell'aspirazione verso la libertà dei borghesi delle città. Esistevano già allora gli stessi problemi sociali che si pongono ai nostri giorni, ma si traducevano nel linguaggio del tempo, che era il linguaggio teologico. L'emancipazione comunale, in specie, fu in stretta relazione con le eresie medievali. I conflitti sociali fornirono, in ogni caso, alle eresie un ambiente favorevole per il loro sviluppo, e questo è un fatto che non si deve mai perdere di vista. Eresie individuali. Tra le eresie medievali in Occidente se ne distinguono alcune che furono soprattutto individuali, mentre altre nacquero e si costruirono in gruppi di dissidenti. Ricorderemo solo sommariamente le prime. Nel secolo XI un certo Berengario, già canonico di Tours e quindi arcidiacono di Angers, fu il primo avversario, a noi noto, della presenza reale dell'Eucaristia. Secondo lui, la consacrazione del pane e del vino aveva lo scopo di santificare gli elementi, sottraendoli all'uso profano e dando loro un certo potere santificante. In sostanza, l'ostia consacrata era, secondo lui, solo pane benedetto, e solo per una pia convenzione la si poteva chiamare corpo di Gesù Cristo. Berengario fu immediatamente confutato da Adelmanno di Liegi, da Ugo di Langres e da Lanfranco di Bè, che erano fra i più illustri teologi del tempo. La dottrina dell'innovatore fu condannata nel concilio di Vercelli del 1051, in quello di Parigi dello stesso anno, in quel di Tours del 1054 ed in altri 10 sinodi. Egli finì per ritrovarsi, ma ricadde nell'errore, si ritrattò nuovamente e morì nel 1088, dopo una sincera conversione. Al contrario, Berengario, che fu una speciale razionalista, altri eretici del Medioevo caddero in falsi misticismi. Così, ad esempio, Amalrico di Bena, verso la fine del secolo XII, egli parve ispirarsi alle opere del filosofo scoto Eringena, un platonico abbastanza arrischiato ma di grande ingegno. Amalrico ricavò dalla sua dottrina una specie di panteismo. Secondo lui Dio è l'essenza intima di tutto ciò che è l'essenza intima di tutto ciò che esiste. I suoi discepoli giunsero alla conclusione che tutto è divino, che tutto è buono, che non vi è più differenza tra il bene e il male. Gli amalricani giungevano a considerarsi come gli strumenti dello Spirito Santo. Preconizzavano il libero amore, si irritavano delle condanne della Chiesa e finivano per trattare il Papa come anticristo. Gli errori di Amalrico furono condannati poco dopo la sua morte, avvenuta fra il 1205 e il 1207 da un sinodo di Parigi del 1210, che ordinò di dissotterrare il suo corpo perché indegno di riposare in terreno consacrato. Il concilio lateranense del 1215 condannò nuovamente la dottrina amalricana, dichiarandola più assurda che eretica. idee abbastanza simili si ritrovano comunque in tutto il Medioevo, specialmente nei Beguardi e nei Fraticelli. Ma questi ultimi hanno potuto ispirarsi ancora di più ad un personaggio misterioso come Gioacchino da Fiore, di cui si è potuto supporre l'influsso sulla maggior parte dei gruppi sedicenti mistici dell'Italia e di altri paesi cristiani. Questo Gioacchino, di origine italiana, morì mentre era abate all'abbazia di Fiore, in Calabria, il 22 marzo 1202. La sua dottrina, strana quanto la sua persona, si riassume nei seguenti punti. Primo, come vi sono tre persone in Dio, così vi sono tre ere del mondo: l'era della legge, l'era di Cristo e l'era dello Spirito Santo. 2. L'era del Padre e della legge fu quella dell'Antico Testamento. Era di schiavitù e di timore, epoca della gente sposata e dei laici. L'era di Cristo è quella del Nuovo Testamento, era mista di gente sposata e di chierici non sposati, ma che vivono nel mondo. La pienezza dei tempi, che deve cominciare intorno al 1260, sarà l'era dei monaci, l'era dell'avvento dello Spirito Santo, l'era della libertà, nella quale dominerà il Vangelo eterno. Questo Vangelo non sarà scritto, ma sarà un'interpretazione tutta spirituale dell'Antico e del Nuovo Testamento. Queste idee non impedivano a Gioacchino da Fiore, dolce e sognante, di rimanere un fedele figlio della Chiesa. Solo dopo la sua morte, alcuni francescani, esaltati alla testa dei quali si era soliti porre il famoso Gerardo da Borgo, San Donnino, riprenderanno i suoi scritti, ne faranno l'espressione del Vangelo eterno e si crederanno chiamati a riformare la Chiesa da cima a fondo. Pretenderanno di imporre a tutti la povertà apostolica così bene imitata dal loro maestro Francesco d'Assisi, ma cadendo nella ribellione, rifiutando di sottomettersi all'autorità della Chiesa, saranno infine condannati come eretici durante il secolo XIV. Tutto ciò che non era altro che falso misticismo. I pietrobrussiani. Ecco ora alcune eresie che hanno la forma di sette dissidenti. In primo luogo i pietrobrussiani, sono così chiamati dal nome del loro fondatore, un certo Pietro di Bruis, prete deposto e ribelle. A partire del 1104 egli avrebbe cominciato a predicare nella lingua d'oca in Provenza. Che cosa insegnava? Che non si devono battezzare i bambini, i quali non capiscono nulla, e che è inutile pregare nelle chiese, perché Dio è ovunque, che si deve sopprimere l'uso del crocifisso, come pure la preghiera per i defunti, la fede nella presenza reale, soprattutto l'obbedienza al clero. Incitava le popolazioni contro i parroci e i monaci, ma una forte reazione si scatenò contro di lui. Nel Venerdì Santo del 1124 pretese di far cuocere della carne su un fuoco di crocifissi accatastati, ma fu assalito dalla folla, scandalizzata e ucciso. Dopo di lui prese la direzione della setta un benedettino apostata, Enrico di Losanna. Fu condannato nel Concilio di Pisa nel 1135 e pare sia morto in carcere verso il 1145. Il grande avversario di questa setta anticlericale fu San Bernardo di Chiaravalle, che predicò spesso negli ambienti dove si era propagato il male. Una setta di tendenze analoghe si propagò nel Brabante, nella zona di Anvers, cappeggiata da una specie di avventuriero di nome Tanchelmo di Bradante, che si spacciava per figlio di Dio. Egli riuscì a trascinare al suo seguito una folla di ignoranti fanatici. Fu confutato da un emulo di San Bernardo, il grande oratore San Norberto, fondatore del Premonstratensi. Tanchelmo morì il 1115 per un colpo infertogli al capo durante un viaggio in barca. I Valdesi, le piccole sette precedenti non furono mai molto pericolose. Non si può dire altrettanto di quella dei Valdesi. Essa era come autore, ebbe come autore un mercante di Lione di nome Pietro Valdo o Valdes. Desideroso di camminare nella vita della perfezione, Valdo si immerse nello studio della Bibbia, distribuì tutte le sue ricchezze ai poveri e si mise a predicare la penitenza. Si unirono a lui alcuni discepoli in piena buona fede, furono chiamati da prima i poveri di Lione. Si credettero autorizzati a predicare il Vangelo al popolo, ma impreparati come erano, misero presto in allarme l'autorità ecclesiastica e il vescovo di Lione proibì loro di predicare. Valdo si recò a Roma al tempo del Concilio Lateranense nel 1179. Il Papa Alessandro III approvò il loro modo di vivere, ma li sottopose, per quanto riguardava la predicazione, alle autorità episcopali del luogo. La stessa linea di condotta fu imposta agli umiliati o poveri lombardi, che erano una formazione analoga. Se il povero di Lione e i poveri lombardi avessero osservato le regole loro imposta, come farà più tardi Francesco d'Assisi con i suoi autentici poveri, non vi sarebbe stato lo scisma, ma Valdo e i suoi ricominciarono a predicare senza alcuna autorizzazione, dandosi quindi alla rapina, al saccheggio, alle stragi di cattolici, a violenze gratuite di ogni genere. Invano il vescovo Bellesmains li chiamò all'ordine. Il Papa Lucio III finì per condannarli insieme agli umiliati nel Concilio di Verona e nella bolla dell'Abolendam del 4 novembre 1184. In seguito i Valdesi si divisero dagli umiliati della Lombardia e si organizzarono come setta separata dalla Chiesa. Dallo scisma passarono presto all'eresia. Adorarono una dottrina abbastanza analoga a quella dei donatisti del IV secolo, facendo dipendere la validità dei sacramenti dalla santità di colui che li conferisce. Ma andando ancora oltre, attribuirono ad essi, a motivo della loro santità derivante dalla povertà, il diritto di conferire i sacramenti del battesimo, alla cresima e all'eucaristia, senza aver ricevuto l'ordine. Valdo pretese di esercitare tutti i poteri del sacerdote e perfino del vescovo, senza essere stato né ordinato né consacrato. Per sottrarsi alla repressione da parte delle autorità ecclesiastiche e civili, i Valdesi rinunciarono alla violenza e si stabilirono nelle valli delle Alpi Cozie, nella zona di Frassinere, nella valle d'Argentera, nella Val Luisa, nella valle della Dora, Riparia e nella Angrona. Il loro centro preferito fu la città di Pinerolo, nella zona di Torre Pellice. Alcuni gruppi sorsero anche nella Puglia e nella Calabria molto più tardi, verso il 1533. Adottarono le principali dottrine della riforma protestante, giustificazione mediante la sola fede, riduzione dei sacramenti a due, interpretazione dell'Eucaristia in senso calvinista, dottrina della predestinazione. Il movimento valdese finì per non essere altro che un appendice del calvinismo. Fu questo ad attirare su di essi le repressioni legali sotto Francesco I. Essi furono allora, per ordine del Parlamento di Ajax a Aix-en-Provence, le vittime di una tremenda spedizione punitiva durante la quale vi furono migliaia di morti. Le cifre variano fra 800 e 4.000 per 22 villaggi distrutti. Liberati dalle leggi piemontesi di tolleranza religiosa, nel 1848 i Valdesi diedero la spinta del generale inglese John Charles McWitt, si credettero chiamati a rigenerare l'Italia distruggendo il cattolicesimo, ma la loro evangelizzazione dell'Italia non ottenne il successo sperato. Attualmente i Valdesi si dividono il mondo in 5 settori: Valli Alpine, Piemonte, Lombardia, Veneto, Nizza, Liguria, Toscana, Roma, Italia del Sud e Sicilia, Rio della Plata e zone circostanti, ma il loro numero non supera i 30.000 adepti. Molti di essi, liberatisi dei pregiudizi dei confronti della Chiesa di Roma, aderiscono ferventemente al movimento ecumenico dell'unità delle Chiese. Gli albigesi, molto meno duratura, ma assai più pericolosa, fu l'eresia degli albigesi, che prende il nome dalla città di Albi, dove ebbe il centro più importante. Sono anche detti catari, da una parola greca che significa i puri. Questo solo nome suggerisce un'origine orientale. E così, procedendo secondo il metodo usato in paleontologia per stabilire una filiazione tra i fossili di età diverse, si è pensato di poter ricollegare l'eresia dei Catari dell'Italia e della Francia al manicheismo, passando per i Bogomiti bulgari del IX secolo e i Paulicani asiatici del VII. È quindi il caso di parlare di quel manicheismo al quale rimase più o meno legato Agostino per 9 anni della sua gioventù. Il manicheismo prende il nome del fondatore Mani, oriundo di Babilonia e appartenente, per via del padre, Pach, alla famiglia reale degli Arsacidi della Persia. Mani era nato il 14 aprile del 216. Si crede che il padre appartenesse ad una setta eucratica, i cui membri già si chiamavano i puri e portavano vesti bianche. Non c'è dubbio che Mani, fin dalla giovinezza, sia stato educato nelle idee di un'ansiosa ricerca della purezza, mediante la fuga dalla materia ritenuta la fonte di ogni male e di ogni impurità. Ma presto Mani si credette chiamato a una missione profetica. La sua dottrina si basa sul concetto di un continuo profetismo divino. Egli si identifica quindi al Paraclito e si pone perciò stesso in un'atmosfera cristiana, ma al margine del cristianesimo ortodosso. Ha attinto la propria dottrina a 4 fonti diverse: l'antica religione naturalistica di Babilonia, la religione zarathustriana o persismo, il buddismo per quanto riguarda la morte e l'ascetismo, il cristianesimo per quanto riguarda il profetismo, la teoria della salvezza, ma un cristianesimo alimentato più dagli apocrifi che dai Vangeli autentici. In sostanza, Mani è una specie di Maometto ante litteram, un Maometto non riuscito. Al punto di partenza, il dualismo, cioè un duplice principio eterno, quello del bene e quello del male. Tra l'uomo primitivo, che Dio aveva creato buono, e Satana, principe delle tenebre, si è impegnata la lotta. L'uomo porta le tracce della propria sconfitta, la donna ancora di più. Il dualismo è in noi, è la lotta della carne e dello spirito. Gesù riveste un corpo apparente d'occettismo per salvare l'uomo. La salvezza consiste nel liberare le particelle di luce che sono in noi smarrite nelle tenebre del corpo. Non tutti giungono in modo uguale a questa liberazione. I discepoli perfetti di Mani sono quelli che osservano i 3 sigilli: il sigillo della bocca, astinenza perpetua dal vino, dalla carne e da ogni pensiero impuro; il sigillo della mano, l'avversione per qualunque lavoro servile; il sigillo del ventre, continenza assoluta. Quelli che applicano tale programma sono gli eletti. I discepoli di grado inferiore sono chiamati auditori. Agostino, in gioventù, appartenne a questa categoria e non superò mai tale grado. Si trovano idee simili sia nei priscillianisti spagnoli del V e VI secolo, sia nei vari raggruppamenti che abbiamo ricordati sopra. In Francia il catarismo si manifesta nel XII secolo, tanto nello Champagne come nella lingua d'oca che nella Provenza. Il nome di Albigesi fu dato un po' dappertutto a gruppi molto distanti da Albi. In questi eretici rimane visibile il manicheismo iniziale. Strada feconda, tuttavia, il manicheismo si è arricchito di elementi nuovi: anticlericalismo, antimilitarismo, anarchia, comunismo. La distinzione fra eletti e profeti e semplici credenti o auditori restava la base dell'organizzazione della setta. I perfetti praticavano un rigoroso ascetismo che faceva profonda impressione sul basso popolo. Una nobildonna della lingua d'oca raccontava di essere andata a far visita a uno di questi perfetti. Egli le apparve, diceva, come la più strana delle meraviglie. Da molto tempo era seduto su una sedia, immobile come un tronco d'albero e insensibile a tutto ciò che lo circondava. Ai nostri giorni diremmo come un fakiro indiano. I perfetti avevano orrore del matrimonio che perpetua la vita terrena, questa illusione satanica. Praticavano la continenza assoluta ed incoraggiavano i credenti a non far uso del matrimonio. Condannavano il giuramento, il servizio militare, ma in numerose occasioni venivano esortati allo sterminio dei cattolici. Consideravano il suicidio volontario come l'idea della santità. Alcuni si facevano tagliare le vene per morire in un bagno o prendevano il veleno. Ma la maniera di suicidio più diffusa consisteva nel mettersi in endura, cioè nel lasciarsi morire di fame. Per entrare nello stato di perfezione, gli eletti ricevevano una specie di battesimo tutto spirituale, perché l'acqua è maledetta come ogni altra materia, chiamato consolamentum. I semplici credenti non avevano altro obbligo che quello di andare, di adorare gli eletti e di nutrirli, così che potessero condurre senza preoccupazioni materiali la loro vita. Ricevevano tuttavia anch'essi il consolamentum, ma sul letto di morte, quando non vi era più alcuna possibilità di guarigione, per evitare qualunque pericolo che riacquistassero la salute, venivano messi o si mettevano essi stessi in endura, facendo cioè lo sciopero della fame, per non perdere il frutto della loro rigenerazione. Una simile dottrina si opponeva in modo così manifesto alla religione cristiana e all'intera società fondata su questa religione, come pure alla civiltà che il cristianesimo aveva portato, che non è da stupire se si impegnò un'accesa lotta contro di essa. Da parte cattolica questa lotta fu condotta con una carità e uno zelo veramente apostolici. San Bernardo aveva predicato ripetutamente contro i catari. Il Papa Innocenzo III, 50 anni dopo, fu spaventato per i progressi dell'eresia e sollecitò i prelati e i nobili del mezzogiorno della Francia ad unire i propri sforzi per combattere. Mandò legati per dirigere l'evangelizzazione dei paesi contaminati e prescrisse formalmente l'uso di mezzi pacifici. Vi ordiniamo, scrive ai legati il 19 dicembre 1206, di scegliere nomini di provata virtù. E prendendo a modello la povertà di Cristo, vestiti di messamenti, si andarono a trovare gli eretici con l'esempio della loro vita e con l'insegnamento cercheranno, con la grazia di Dio, di strapparli all'errore. Fra i più ardenti di questi apostoli cattolici troviamo, a partire dal 1206, un vescovo spagnolo, Diego de Azevedo, e uno dei suoi canonici di Osma, Domenico di Guzman, che per meglio combattere l'eresia fonderà l'ordine dei frati predicatori dei domenicani. Purtroppo nella contesa fece subito apparizione la violenza. Numerosissimi legati, ma anche semplici cattolici, erano già stati massacrati quando il 15 gennaio 1208 il legato del Papa Pietro di Castelnau veniva assassinato da alcuni fanatici. Il Papa Innocenzo III invitò allora i nobili cristiani a una crociata contro i dissidenti, ma era più facile scatenare i rozzi guerrieri feudali di quel tempo che mantenerli nella moderazione cristiana. Vi furono da una parte e dall'altra eccessi deplorevoli. La crociata fu diretta dal conte Simon di Montfort. Fra i nobili del nord e quelli del sud vi erano inconsce animosità che esercitarono un notevole influsso. I crociati non desideravano che una cosa: privare gli eretici dei loro beni per impadronirsene. La conquista di Béziers fu segnata da una sanguinosa carneficina. La battaglia di Muret nel 12 settembre 1213 fu decisiva. In fin dei conti fu il regno francese a trarre vantaggio dallo sconvolgimento della proprietà feudale causato dalla tremenda guerra degli Albigesi. Si deve ricollegare in gran parte alle dolorose esperienze di questa guerra l'aggravarsi della repressione dell'eresia per mezzo del Tribunale della Inquisizione, creato nel 1184 nel Concilio di Verona, affidando dapprima ai vescovi fin quasi al 1233 e quindi ai delegati della Santa Sede che furono i più delle volte domenicani, a partire dal 1224. La legge civile prescrisse la pena di morte contro gli eretici ostinati. L'eresia di Wiglaf. Sotto forme anarchiche, le eresie dei Valdesi e dei Catari potevano essere considerate già come tentativi di riforma della Chiesa contaminata da tanti abusi. Questo stesso carattere si riscontrò in Wiglaf e in Giovanni Hus, prima di rivelarsi in Lutero e negli innovatori del secolo XVI. Ma invece di pressioni oscure venute nella profondità del popolo, è la scienza universitaria che tenterà di procedere al rifacimento dei dogmi e della repressione dei disordini morali in senso alla Chiesa. Wiglaf è innanzitutto un uomo di Oxford, nasce nel castello di Wiglaf on Tees, nel Yorkshire nel 1324 tra il 1324 e il 1328. Giunse ad Oxford nel 1345. La peste nera interrompe i suoi studi dal 1349 al 1353. Diventa allora maestro del collegio di Balliol e parroco di Fillingham e infine dottore in teologia nel 1372. Come tanti altri, egli accumula benefici, abuso questo tra i più spiacevoli del tempo. A partire del 1374 scrive tutta una serie di opere che gli procurarono il favore della corona. Sarà d'ora in poi l'avvocato dei diritti dello Stato contro il papato. Le sue opere principali sono Il Dominio Divino 1375, Il Dominio Civile 1375, La Verità della Scrittura 1378, La Chiesa 1378, largamente sfruttata più tardi da Giovanni Hus, L'Oriente Cristiano 1379, L'Apostasia 1379, L'Eucaristia 1379, Il Trialogos autunno 1382, la più importante di tutte. Accanto a queste e ad alcune altre opere meno importanti in lingua ialina, Wiglaf pubblica anche 10 tracts riformisti in inglese e favorisce una traduzione della Bibbia nella lingua nazionale. Quindi raduna dei predicatori popolari e con il nome di poveri preti li lancia per il paese. L'opinione pubblica, soprattutto questi predicatori lollardi, che sembrava significhi cantori di cantici. Fin dal febbraio 1377 gli era stato messo sotto accusa dal vescovo Guglielmo di Canterbury, ma la corte l'avrebbe difeso. Il papa Gregorio X invece lo condannò, intimandogli di comparire dinanzi al tribunale ecclesiastico. Egli protestò contro la citazione in nome della libertà. Delle libertà anglicane e paragonò il Papa all'Anticristo secondo, nome di Wyclef, ed è a questo punto legato a tutte le agitazioni sociali. I contadini invocano la sua autorità contro le esazioni di cui sono vittime. Il vescovo Guglielmo di Canterbury, appoggiato questa volta dal conte, mise nuovamente mano alla repressione. Il sinodo di Banffriars, 17-21 maggio 1382, riunito Canterbury, condannò tutte le dottrine di Wyclef ed epurò i suoi partigiani dall'università di Oxford. Egli si ritirò nella sua parrocchia a Lutterworth, a sud di Lancaster, dove continuò a scrivere molto fino alla morte, avvenuto il 31 dicembre 1384. Ricevette funerali religiosi poiché non era mai stato scomunicato formalmente, ma dopo la condanna della sua dottrina al Concilio di Costanza del 4 maggio 1415, il vescovo di Lincoln, da cui dipendeva la Luther Worth ricevette l'ordine di esumare i resti, di farli bruciare e di gettare le ceneri nel fiume. L'ordine venne eseguito solo nel 1428. La dottrina di Wycliffe consta da 45 proposizioni tratte dai suoi scritti, che furono condannate nel Concilio di Costanza, condanne ribadite da due bolle di Martino V nel 1418. Il suo sistema era una specie di panteismo fatalista. Secondo lui Dio è tutto e tutto è Dio. Tutto ciò che avviene è necessario. Dio predestina gli uni al cielo, gli altri all'inferno. La Chiesa non è altro che una società invisibile dei predestinati. Non vi è altra autorità divina al di fuori di quella della Bibbia. La Chiesa romana è la sinagoga di Satana. Gli ordini religiosi sono istituzioni diaboliche. Il dogma della transustanziazione è un'eresia. Cristo si presenta nell'Eucaristia, ma insieme con il pane e il vino, che non vengono trasformati. Una delle teorie antisociali di Wilkman era quella della sovranità e del dominio divino e civile. Questo era appunto il titolo dei suoi due primi libri. Secondo lui Dio solo è sovrano. Egli solo ha il dominio su tutte le cose. Il re non presiede il proprio stato se non sotto l'autorità di Dio, e può esercitare il proprio potere solo se è sottoposto a Dio. Vale a dire se è un in stato di grazia. L'uomo in stato di peccato mortale non può esercitare né la sovranità né il diritto di proprietà. Al contrario, l'uomo in stato di grazia è realmente in Dio sovrano di tutto l'universo. Il papato non ha alcun potere nel campo civile, né diretto né indiretto. Tuttavia, siccome soltanto Dio conosce quelli che sono in stato di grazia, Wycliffe era costretto a negare ogni efficacia pratica delle idee rivoluzionarie da lui professate in teoria. Vi era comunque in esse una forza esplosiva che spiega la ribellione dei Lollardi, duramente repressa da Enrico IV di Lancaster a partire dal 1400, tanto che Wycliffe, braccati senza pietà, scomparvero completamente. Giovanni Hus e gli Ussiti. Uno stretto legame unisce l'eresia di Giovanni Hus a quello di Wycliffe. Giovanni Hus era nato verso il 1369 a Užinec, da famiglia contadina. Compì gli studi a Praga e vi divenne predicatore nella cappella di Betlehem, di cui fece un centro di riformismo ecclesiastico e di patriottismo ceco. Era una scelta la sua eloquenza ardente, la sua vita esemplare, il suo volto grave, emaciato, pallido e austero, entusiasmavano gli uditori. L'odio per lo straniero, lo zelo per la riforma, il sincero culto del Vangelo erano altrettanti aspetti che gli procuravano una certa popolarità. Uno dei suoi ultimi biografi, Ernest Dennis, ha potuto parlare della sua inflessibile umiltà, un'umiltà che celava forse un orgoglio indomabile. La coscienza del suo zelo riformista e della sua missione politica sostituiva in lui la teologia, la filosofia e l'ortodossia. Egli non era affatto un pensatore originale, ma le dottrine di Wycliffe, importate da Oxford attraverso alcuni studi ciechi, erano vivacemente discusse a Praga. Uno dei più accesi wycliffiani boemi era un giovane di nome Gerolamo da Praga. A causa del mancato appoggio alla causa nazionalista da parte della Chiesa, Giovanni Hus si lanciò con entusiasmo su questa strada. Al pari di Wycliffe, ammise che la scrittura è la sola fonte di ogni verità divina, che Cristo è il solo capo della Chiesa, che il papato non è se una istituzione di fatto della quale Cristo non ha avuto parte alcuna, che qualunque superiore perde la propria autorità cadendo nel peccato morale, che la Chiesa è formata da soli predestinati e che ogni predestinato è infallibile. Parecchie di queste idee si riscontrarono in Lutero, il quale tuttavia non fu influenzato da Giovanni Hus nella rivoluzione religiosa che operò un secolo dopo. Alle controversie suscitate da quanto andava predicando venne a mischiarsi una questione di razza. Hus ottenne dal re Venceslao che la nazione ceca beneficasse di 3 voti nell'Università di Praga, mentre le altre 3 nazioni, Baviera, Sassonia e Polonia, avrebbero avuto un solo voto. Si dice che 2000 studenti e professori lasciarono immediatamente Praga e andarono a fondare l'Università di Lipsia 1409. Ma Giovanni Hus, vittorioso su questo punto, fu combattuto dal suo vescovo per le dottrine wyclefiane da lui professate. Come in ogni eresia, da tempo avevano avuto inizio le violenze. I seguaci di Hus si diedero alla rapina, allo stupro, alle stragi di cattolici. Pare che lo stesso Hus vi fosse implicato. Nell'estate del 1412 una bolla pontificia lo scomunicò e lanciò l'interdetto sulla cappella in cui predicava. Hus appellò da una parte a Cristo, ma dall'altra parte, come avrebbe fatto un secolo più tardi Lutero, anche alla nobiltà e al popolo. Ritenendosi basato sulla scrittura, poteva mettere al sicuro la sua inflessibile umiltà, dietro la coscienza della sua infallibilità biblica. Tutti gli eresiarchi, del resto, avevano fatto altrettanto e continuano a farlo tuttora. In queste condizioni fu una vera incongruenza da parte sua il presentarsi dinanzi al concilio di Costanza. Forse sperava di convincere il concilio? Munito di un salvacondotto dall'imperatore Sigismondo, comparve a Costanza il 28 novembre 1414. Si dichiarò pronto a morire piuttosto che ammettere l'errore, e si può credere che fosse sincero. L'esame della sua dottrina mostrò come esse fossero connesse con quelle di Wycliffe, che egli aveva ricopiato talvolta alla lettera. Orbene, come abbiamo accennato sopra, le 45 proposizioni estratte dalle opere di Wycliffe furono condannate il 4 maggio 1415 come notoriamente eretiche o erronee, sediziose e infine scandalose. Le discussioni erano dirette da un prelato francese, Pietro Daily. Giovanni Hus prese di passare all'opposizione difendendo quelle idee di Wycliffe che aveva fatte proprie, ma la facoltà e l'ordine della parola non potevano sostituire in alcun modo l'ortodossia. I padri furono irremovibili con Hus, e che si limitò infine ad appellarsi a Cristo, protestando che non si sarebbe mai riusciti a farlo cedere. I suoi scritti furono condannati alle fiamme il 24 giugno 1915. Il 6 luglio gli fu rivolto un'ultima esortazione. Non gli si poté strappare una sola parola di ritrattazione. Allora fu pronunciata la sentenza. Il Santo Concilio la prova che Giovanni rimase ostinato e incorreggibile. L'assemblea decreta quindi che il colpevole sia deposto e degradato e che, dopo essere stato scacciato dalla Chiesa, sia consegnato al braccio secolare. E così fu. Lo stesso giorno l'infelice Giovanni fu mandato a rogo senza che consentisse ad abbiurare. Si è accusato a questo proposito l'imperatore Sigismondo di aver violato il salvacondotto che aveva concesso a Hus. L'accusa sembra si possa contestare, perché il salvacondotto non aveva lo scopo di sottrarlo alla giustizia legale del tempo, ma di proteggerlo lungo la strada. L'amico di Giovanni Hus, Gerolamo di Praga, incolpato a sua volta, fuggì ma fu ripreso. Acconsentì dapprima a sottomettersi, poi ritrattò la sua abiura e fu condannato a morte il 30 maggio 1416 in qualità di recidivo. Questo non bastò a placare la causa nazionalista, ormai confusa con la setta hussista. Non si calcola quante stragi e assassini l'esercito nato da Hus abbia compiuto nei decenni in cui operò. Capitolo VI. La rivoluzione protestante. Una catastrofe. Vi sono due date particolarmente dolorose nella lunga storia della Chiesa. La prima è quella che segue lo scoppio dello scisma fra la Chiesa greca e la Chiesa latina, 16 luglio 1054. Con la scomunica lanciata da Michele Cerulario, patriarca di Costantinopoli. La seconda è quella che segna l'inizio della rivoluzione protestante, con la tesi sulle indulgenze pubblicate dal monaco Martin Lutero il 31 ottobre 1517. Lo scisma greco non è un'eresia vera e propria, perciò non abbiamo creduto necessario trattarla in questo breve compendio delle eresie. Esso aveva avuto due antecedenti, lo scisma di Acacia, che abbiamo segnalato, e lo scisma di Fozio nel IX secolo. Per due volte fu ristabilita l'unione. Nel Concilio di Lione del 1274 e nel Concilio di Firenze del 1438-39, ma entrambe le volte la riconciliazione fu soltanto passeggera. Pochi punti controversi inquinano in definitiva la dottrina della Chiesa greca. Die si definisce che noi stessi chiamiamo Chiesa ortodossa. Nell'insieme la sua fede è autentica. Per questo, quando preghiamo con tanto ardore per la riunione delle chiese, lo facciamo innanzitutto per la riconciliazione delle due chiese sorelle, la Chiesa romana, madre e centro della Chiesa, e la Chiesa ortodossa. La riforma protestante fu purtroppo qualcosa di molto più grave e perciò nel parlare usiamo qui il sottotitolo «Una catastrofe». Dalla triplice unità voluta da Cristo nella Chiesa, unità di fede, unità di comunione, unità di governo, nello scisma si intacca solo quest'ultima. Invece nella riforma protestante sono state colpite tutte e tre. L'unità è stata irrimediabilmente spezzata e secondo il detto consacrato dall'uso è stato veramente lacerata la tunica inconsutile del Cristo. Le cause del protestantesimo. Quando si studiano le cause del protestantesimo, si usa fare un quadro a forti tinte degli abusi da cui era contaminata la Chiesa. Scolarizzazione del papato e di gran parte del clero in tutti i gradi di gerarchia, invasione del paganesimo dietro il pretesto di un ritorno dell'antichità classica greco-latina nell'umanesimo, sviluppo del nazionalismo e inizio di una politica cosiddetta realistica, cioè sdegnosa di ogni regola morale per tener conto solo dei risultati, politica in cui Machiavelli doveva essere lo storiografo e il teorico entusiasta. Tutto questo è giusto, ma non è l'essenziale. Potevamo esservi dei turbamenti, dei disordini in senso della Chiesa, poteva nascere l'eresia, ma non era certo inevitabile che prendesse la forma di Chiesa separata e degenerasse in scisma numerosi e in scismi numerosi e incurabili. La cosa più grave in questa dolorosa rivoluzione fu precisamente il fatto che essa pretese di compiere un rifacimento dei dogmi, ritornare alla purezza del cristianesimo, in una parola, accaparrarsi l'altisonante nome di riforma che circolava da secoli in seno alla cristianità. Riformare la Chiesa, grandioso e seducente programma, ma era necessario evitare un triplice errore. Primo, quello di credere che la Chiesa, per quanto fosse potuta venir meno al suo ideale primitivo, avesse potuto, in quanto Chiesa, errare nella fede. Secondo, quello di pensare che la fede pura, perduratasi nella Chiesa, potesse essere ritrovata, come si ritrovava l'antichità classica nei manoscritti greci latini. Terzo, quello di ritenere che, una volta ritrovata, per merito di uno o più riformatori, la dottrina cristiana potesse essere sempre preservata da qualunque nuova alterazione. Vi era un errore riguardo al passato, poiché la Chiesa, anche corrosa dagli abusi, aveva ricevuto dal suo fondatore la promessa di essere assistita dallo Spirito Santo, in modo che non potesse tradire il deposito della vera fede. Vi era un errore riguardo al presente, poiché non spettava ad alcun potere umano di ritrovare la fede, con il semplice espediente del ricorso alla scrittura, cioè in definitiva con l'esegesi e la filosofia. E vi era un errore riguardo l'avvenire, in quanto questo ricorso alla scrittura, eretto a principio assoluto di restaurazione, doveva rivelarsi invece come un principio di dispersione e di nuove divisioni senza fine, per quelli stessi che avevano riposto in esso tutta la loro fiducia. Detto ciò, ricordiamo sommariamente i fatti essenziali. Lutero e la rottura dell'unità. Lutero era nato il 10 novembre 1483 a Esleben, in Sassonia. Il padre era minatore e non gli lasciò altro in eredità se non un temperamento di rozzo sassone, secondo le parole dello stesso Lutero. La madre, Margherita Ziengler, era una casalinga molto credente, ma anche molto superstiziosa, che aveva un gusto spiccato per le storie di magie e di stregonerie. La vita di scolaro del giovane Lutero fu interessata da sofferenze e privazioni. Compì tuttavia dei buoni studi alla maniera del tempo, cioè secondo le norme di una scolastica decadente e inaridita. Ricevette il grado di dottore in lettere e filosofia nel 1505 all'università di Erfurt. Il padre, orgoglioso dei suoi successi, pensava di farne un giurista, poiché questa era la carriera più adatta a far fortuna. Fu quindi molto scontento allorché venne a sapere che quel figlio di così spiccato talento era entrato senza il suo permesso nel convento degli Agostiniani di Erfurt il 17 luglio di quello stesso anno. Che cosa era accaduto? Il giovane Lutero, di ritorno dalla sua città natale il 2 luglio 1505, era stato colto alle porte di Erfurt da uno spaventoso uragano. Si era trovato di fronte alla morte. Sperduto, aveva fatto precipitosamente il voto di farsi monaco se fosse sfuggito al fulmine. 15 giorni dopo manteneva la parola. Questa vocazione, troppo poco maturata, avrebbe pesato su tutta la sua esistenza. Agli inizi, comunque, tutto andava bene. Lutero fece il noviziato e quindi emise i voti religiosi. Il 2 maggio 1507 veniva ordinato prete. L'anno seguente passava da Erfurt a Wittenberg come professore alla nuova università eretta in questa città. Il viaggio compiuto a Roma nel 1510-511 per gli affari del suo convento non scosse minimamente la sua fede nel papato, qualunque cosa sia stata detta più tardi. Al suo ritorno, tuttavia, si dichiarò contrario alla stretta osservanza dell'ordine, preferendo stare sotto l'obbedienza dei superiori, nella fede e nell'umiltà. Si manifesta già in lui una sfiducia verso quella che egli chiamerà poi più tardi la giustizia mediante le opere e la giustizia personale. Frattanto continuava gli studi e riceveva nel 1512 il berretto di dottore in teologia. Disgustato, come molti della sua generazione, della scolastica, la quale era in realtà in piena decadenza, e Lutero subì inconsciamente il nefasto influsso del nominalismo, si volgeva di preferenza agli studi biblici, non senza convincersi che ritornava in un terreno pressoché abbandonato. Probabilmente egli ignorava, perlomeno agli inizi, che in quel momento verso la Bibbia non era solo uomini come Jean Collet a Oxford, Lefebvre de Taples a Parigi ed Erasmo di Rotterdam lo stavano percorrendo con lui. Iniziò così un cammino di salmi nel 1915. Dai salmi passò nel 1915 all'epistola ai Romani e qui appunto fece, o credette di fare, scoperte fondamentali per la riforma del dogma cristiano. Noi che abbiamo il modo di guardare panoramicamente la storia, abbiamo la certezza che egli leggesse San Paolo solo attraverso le intime e inconsce esigenze del suo temperamento esuberante ed eccessivo, divorato dagli scrupoli e da tormenti interiori irriducibili. Noi oggi diciamo che ciò equivale a fare delle esegesi soggettiva, cioè piegare i resti dell'esperienza intima. I resti all'esperienza intima. Ora, questa esperienza egli rileva che il peccato in noi non può essere vinto, che è inerente alla nostra natura, che la salvezza sarebbe impossibile se consistesse nella purificazione da ogni peccato. Era arrivata infatti a confondere sentire e consentire, a non poter più distinguere tra la concupiscenza e il peccato, a considerare l'uomo e tutta la creatura come sottomesse a un ineluttabile fatalismo. Credette di trovare in San Paolo la descrizione precisa del suo stato interiore e insieme il rimedio sicuro a tutte le sue angosce. Orgoglioso della scoperta, intendeva propagarla in tutta la Chiesa e farne un principio di liberazione, di riforma, di salvezza universale. Non sembra tuttavia che mirasse a una rottura con la Chiesa. Questa rottura sopravvenne senza che se ne rendesse conto, ma una volta in possesso della sua dottrina e a dispetto di molte fluttuazioni e modifiche più o meno volontarie e coscienti, non volle più lasciare la presa. L'occasione, soltanto occasione della rottura, fu la questione delle indulgenze. Si faceva allora intorno alle concessioni di indulgenze un traffico che ai nostri giorni giudichiamo giustamente deplorevole, ma che si era insinuato a poco e per motivi talvolta quasi lodevoli nella pratica della Chiesa. Si trattava questa volta di raccogliere fondi per la costruzione della Basilica di San Pietro a Roma. Mormorii di scontento circolarono in Germania e perfino nelle bettole si criticò l'avidità romana. Lutero aveva già attaccato la dottrina delle indulgenze. Redasse alla svelta 95 tesi che affisse alle porte della chiesa collegiale di Wittenberg. Vi si leggeva, tra l'altro: i tesori delle indulgenze sono le reti con le quali si pescono oro le ricchezze degli uomini. Se il Papa conoscesse le esazioni dei predicatori di indulgenze, preferirebbe che la Basilica di San Pietro fosse ridotta in cenere, piuttosto che costruirla con la pelle, la carne e le ossa delle sue pecorelle. L'impressione prodotta fu enorme. Nessuno si presentò per discutere le tesi di Lutero, ma tra lui e teologi romani si ingaggiò una disputa scritta. Con la sua rudezza di sassone, Martin Lutero dapprima bistrattò i teologi, poi affrontò il legato del Papa, il cardinale Gaetano ad Amburgo. Non potendo cedere alle sue istanze e non sapendo resistere ai suoi argomenti, lanciò un appello al Papa meglio informato, 22 ottobre 1518, in seguito un appello del Papa al Concilio Generale, 28 novembre 1518. Le indulgenze erano del resto passate subito in secondo piano. Si trattava ora del dogma essenziale per Lutero, della certezza della salvezza mediante la sola fede, senza le opere. Cosa strana, dopo aver accusato la dottrina e la pratica delle indulgenze di generare la sicurezza, egli faceva della sicurezza mediante la fede il dogma centrale del suo insegnamento. La disputa di Lipsia, 27 giugno 1519, invece di porre rimedio alle cose, le aggravò infinitamente. Il teologo cattolico Giovanni Eck ricordò le definizioni dei concili e in particolare di quello di Costanza contro Giovanni Hus. Lutero, piuttosto che cedere, negò l'autorità dei concili, rimettendosi alla sola scrittura. Da quel momento la condanna da parte di Roma non poteva essere evitata. A questo punto capitale della sua evoluzione, egli ricevette da una parte gli incoraggiamenti degli umanisti rivoluzionari come Ulrico e Utten e Crotus Rubens, dall'altra quelli dei nobili tedeschi molto ostili a Roma. Così appoggiato si decise alla rottura. Nel suo animo questa ebbe luogo il 10 di luglio del 1520, poiché in tale data scrisse: il dado è gettato, disprezzo il furore e il favore di Roma. Non voglio più riconciliazione né comunione con essa per l'eternità. Punto esclamativo. E il 17, in una seconda lettera, spingeva Silvestro di Chamberg e Francesco di Sickingen, due nobili rivoluzionari tedeschi, mi hanno ormai liberato da qualunque timore umano. In realtà, egli avrebbe trovato un aiuto molto più efficace nel suo sovrano, l'elettore di Sassonia, di cui ignorava ancora le intime disposizioni. Formazione della Chiesa protestante. A partire dal 1520, i fatti precipitarono. Il 1 agosto Lutero pubblica il suo manifesto alla nobiltà cristiana di Germania per la riforma dello Stato cristiano. Affermava che tutti i cristiani sono uguali, sacerdozio universale, che tutti hanno ugualmente il diritto di ricorrere alla Bibbia, la quale non è affatto riservata all'interpretazione della Chiesa, biblicismo integrale, che l'imperatore e i principi hanno più diritto del Papa a convocare il Concilio Generale, Cesaropapismo. Nell'ottobre seguente pubblicava il suo secondo grande scritto riformatore, Il preludio della cattività babilonese della difesa, in cui attaccava la dottrina dei sacramenti, da lui ridotta a due, battesimo e eucaristia, e tutt'al più a tre, con l'aggiunta della penitenza. Infine, nel novembre pubblicava il suo opuscolo sulla libertà del cristianesimo, che è una delle maggiori esposizioni della sua dottrina. Dottrina che possiamo riassumere nei seguenti punti. Punto primo. Per il peccato originale l'uomo è completamente decaduto e tutto ciò che fa è peccato mortale. La salvezza mediante le opere è impossibile. Punto secondo. Dio senza dubbio ci impone la sua legge nell'Antico Testamento, ma essa è impraticabile. Non ha altro scopo che quello di scoraggiarci, farci disperare, spingerci nelle braccia della misericordia. Punto 3. Quando la legge ci ha portati alla disperazione, la fede fa d'improvviso risplendere ai nostri occhi la certezza della salvezza per i meriti di Gesù Cristo morto per noi sulla croce. Punto 4. Da tutta l'eternità Dio ha predestinato gli uni all'inferno e quelli ai quali nega la fede e gli altri al paradiso, quelli ai quali la concede. Punto 5. Il sacramento del battesimo e quello dell'Eucaristia non hanno altra efficacia se non quella della fede che essi eccitano nei nostri cuori. Frattanto Roma aveva parlato. La bolla Exsurge Domine del 15 giugno 1520 condannava 42 posizioni tratte dalle opere di Lutero. Per tutta risposta, egli bruciò pubblicamente la bolla a Wittenberg il 10 dicembre alla presenza degli studenti dell'università. Il 3 gennaio 1521 veniva scomunicato. L'imperatore lo fece comparire alla dieta di Worms, per indurlo a ritrattare i suoi errori. Era imperatore a quel tempo il giovane Carlo di Asburgo, noto con il nome di Carlo V. Il 18 aprile 1521, alla sua seconda comparizione, Lutero fece alla dieta la seguente dichiarazione, che è rimasta famosa. Due punti, aperte le virgolette. A meno di essere convinto con prove scritturali e con ragioni evidenti, poiché non credo né al Papa né ai soli concili, ai quali, questo è certo, si sono spesso ingannati e contraddetti, sono legato dai testi che ho recati e la mia coscienza è prigioniera delle parole di Dio. Non posso né voglio ritrattare alcunché, perché non è né sicuro né conveniente andare contro la propria coscienza. Che Dio mi aiuti. Amen. Chiuso le virgolette. Punto esclamativo. Lo scisma era consumato. Subito dopo il suo rifiuto di ritrattare l'eresia, Lutero fu messo al bando dall'impero, ma protetto da un salvacondotto prese la via del ritorno e lungo la strada per ordine segreto del suo principe elettore di Sassonia fu rapito da alcuni uomini a cavallo e portato al castello di Wartburg sopra Eisenach. Qui sarebbe rimasto 10 mesi sotto le vesti di cavaliere. In sua assenza, gli amici di Wittenberg continuarono il movimento e molto presto oltrepassarono le sue previsioni e i suoi piani. Il concilio Carlo Stadio o il monaco Zwinglio, con gran stupore di Melantone, meno intraprendente, si mettono a capo della rivoluzione, predicano il matrimonio dei preti, la soppressione dei voti monastici, l'apertura dei conventi, l'abolizione della messa. Da lontano Lutero freme di impazienza, approva un po' a malincuore ed è spiaciuto di questa effervescenza eccessiva. In un bel giorno vengono a Wittenberg dei profeti che si dicono ispirati dallo Spirito Santo e prescrivono di ribattezzare gli adulti, poiché secondo loro il battesimo dei bambini è del tutto senza valore. Lutero non regge più, con grave rischio, violando il bando imperiale da cui era stato colpito e contando sulla protezione del suo principe, lascia il proprio rifugio, torna a Wittenberg e vi predica per 8 giorni di seguito per ristabilire l'ordine, ma soprattutto per riprendere l'autorità. Condanna decisamente gli estremisti, che chiama fanatici, e mette in rotta Carlo Stadio, il suo rivale, e Munzer, il capo dei ribattezzati e anabattisti. Ma invece di far ritorno alla Chiesa romana, dove secondo lui regnava l'anticristo, il Papa organizza una Chiesa regionale, che finisce per porre sotto l'alta autorità del principe. Dopo aver sognato una Chiesa di libertà, egli arriva così, per una singolare contraddizione, alla Chiesa di Stato. Dopo aver criticato Roma in nome del Vangelo, Lutero fondava così un'ortodossia garantita dallo Stato. Da quel momento egli sostiene 2 posizioni diverse. Vuole una chiesa ordinata, regolare, controllata, in cui tutti i pastori e fedeli obbediscono alla lettera, ma questa chiesa rimane ostile a Roma. Egli è quindi ostile a ogni rivoluzione diversa dalla sua. Diventa profondamente conservatore, ma dalla propria Costituzione, e rifugge ad ogni compromesso. Quando i contadini nel 1525 si sollevano in nome del suo Vangelo, egli si erge contro di essi e ne approva la sanguinosa repressione dei nobili. Nobili diletti, scrive, liberateci, aiutateci, abbiate pietà della povera gente che siamo, infilzate, colpite, sgozzate finché potete. Un anarchico non è degno che gli si portino delle ragioni, poiché non le accetta. È con il pugno che si deve riprendere a questa gente. E siccome i suoi amici protestano contro tanta durezza, egli replica ancora più duramente, aperte le virgolette. L'asino può ricevere percosse e il popolo vuole essere governato con la forza. Dio lo sapeva bene, al momento che non ha dato ai governanti una coda di volpe, bensì una spada. Quasi nello stesso tempo Lutero, infrangendo i voti monastici, sposa una ex religiosa, Caterina de Bora, 13 giugno 1525, dalla quale avrà in seguito 5 figli, 3 maschi e 3 femmine. Dietro l'esempio della Sassonia, altri principi abbracciano intanto la sedicente riforma luterana. Interi paesi disertano la Chiesa cattolica. L'Assia, molte città dell'impero, la Svizzera, la Danimarca, la Norvegia, come pure mediante la secolarizzazione, alcune signorie ecclesiastiche e il Ducato di Prussia e di Polonia. Si poté constatare la forza crescente dello scisma luterano, allorché nella dieta di Spira nel 1529 5 principi e 14 città dell'impero protestano contro le decisioni della maggioranza cattolica. Da quel momento i dissidenti ricevettero il nome di protestanti. Quando Lutero morì il 18 febbraio 1546, la sua chiesa era solitamente stabilita e aveva preso posto nello scacchiere politico dell'Europa. Ma avendo rotto l'unità cristiana, i protestanti non poterono conservarla loro. Si formarono altre chiese, spesso altrettanto ostili le une verso le altre, quanto lo erano nei riguardi della grande chiesa. Prima di lasciare Lutero, segnaliamo le sue opere principali posteriori alla rottura. Nel 1525 il Don Servo Arbitrio, il Servo Arbitrio, il De Servo Arbitrio, scritto per confutare l'Erasmo Die, aveva difeso l'esistenza del libero arbitrio, senza il quale non è concepibile alcuna morale, di conseguenza alcuna genuina religione. Nel 1529 il piccolo e quindi il grande catechismo. Nel 1537 gli articoli di Smalcalda, esposizione completa della dottrina luterana. Infine, nel 1545, uno scritto veemente determinato della convocazione del Concilio di Trento contro il papato fondato a Roma dal diavolo. Lutero fu un'anima passionale, un cuore ardente e impetuoso, una mente fertile ma avvolta di bruma, favorito da una prodigiosa sicurezza, da un'eloquenza spesso triviale, ma popolare e affascinante, un temperamento violento, incapace di controllo, di ponderazione, di lealtà verso l'avversario, tuttavia amante dell'ordine materiale, della disciplina civile e religiosa. Infine, una immaginazione accesa, ripiena di visioni strane e ossessioni irresistibili. Gli è stato anche dato il soprannome di Doctor Hyperbolicus, il dottore eccessivo.